È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. Questo contratto, da quello che io so, direttore, c'è l'autista, giusto? Sì. L'autista. E la casa? Sì. L'ufficio? Sì. L'ufficio? E una trentina mila, 30.000 euro al mese? 20.000 euro netti al mese. Ma ragazzi, ma 20.000 euro netti al mese sono niente per quello che io ho fatto. Io ho la macchina sulla quale leasing pago 1.500 euro netti al mese. C'ho un autista, c'ho l'autista, sì, a disposizione, sì, l'autista a disposizione quando mi serve. Oggi voglio stare spento. Mica mica è un appartamento di lusso, no, figurati. Tant'è che me la prendo qua. Ho detto all'azienda che me la pago io perché voglio restare io qua. Voglio restare qua, mi piace mezzo al vero. Sono 1.300-1.400 euro al mese. Non è che sai navire loro. Quello che manda mia moglie e anche le mie figlie. Dai, su, non stiamo a trasformare 20.000 euro come fosse in un fondo ricchezza. Poi c'è anche un altro passaggio, le prostitute guadagnano più di me. Certamente guadagnano più di me e di te. Non esco, dico la prostituzione in generale, dai. Questa è la zanzara 800240024. Iniziamo così con David Parenzo collegato da Roma e con Emilio Fede furibondo con la zanzara. Francamente non si capisce perché. Ciao David. Buonasera, buonasera ai minatori del Carbo Sulcis, hanno deciso di sospendere. Ha riattaccato un'altra volta. E meno male, e meno male. A meno 307 metri e a loro e al tuo cinismo, al sì, tuo cinismo. E meno male, così la finisci con questa tarantella. Al tuo cinismo è dedicata a questa grande canzone dove parlano di te, dove i signori stadio parlano di te. Ma vai, non è vero. Dai, buono, vai regia, che questa canzone parla di te. Vai regia, grazie. Grande figlio di puttana, ma che amico per me. Di chi stai parlando, scusa? Ho detto grande figlio di poeta, l'ha detto lui, signor Gaetano, l'ha detto. Ah, quando l'ha detto su di me, dici, quell'ascoltatore, perché io dicevo che non me ne fregava niente del fatto che tu parlassi di parlare della questione degli operai, dei minatori, là. Incontro urgente con la regione. Ma io me ne frego, basta. È la principale della nostra trasmissione. Ma assolutamente no, non è così, no. Non è così e non sarà mai così. No, vuoi parlare allora della questione del caro benzina, del carrello della spesa? No, ti leggo. Della stangata da 2.000 euro a famiglia? No, non voglio parlare di questo perché non me ne può fregare meno. So. Ti dico ancora un'altra cosa. Emilio Fede così ci descrive. Vergognosa operazione dei due della zanzara, la sintesi alle agenzie per accendere polemiche fra me e Mediaset. I due della zanzara hanno utilizzato la verità contro la mia intervista. Ho detto che un candidato di successo sarebbe Confalonieri. Hanno violato la mia privacy, addirittura frugando nei miei guadagni. Ma ce li ha detti lui i suoi guadagni, come avessi rubato. Vergognoso esempio di disinformazione. Ma per specificare, caro Emilio, a noi non ce ne frega niente di quanto guadagni. Sono affari tra te e Mediaset. Non me ne importa, non me ne frega nulla. Sono contento per te se sei riuscito a strappare un altro contratto a 81-82 anni a 20.000 euro netti al mese. Sono contentissimo per te. Ma certo, ma perché si arrabbia con noi? Non ho mica capito. Ma non lo capisco. Non aveva mica una pistola puntata da te. Aspetta, i tuoi guadagni. Aspetta, conosco un imprenditore che ha un aereo. Cruciani e Parenzo lo devono offrire alla violenza degli scelerati di tweet. Ma no, per niente. Che c'entra che lo offriamo alla violenza? Quelli che ti minacciano e ti insultano sono dei coglioni, degli imbecilli. Ognuno ha fatto un pianto, ha pianto anche con la mia. Grande però. Parenzo e Cruciani, avete mortificato la privacy della mia famiglia. Spero che la gente per bene sappia giudicarvi. Ma non sei ma stato perché? Tu? Ma sei stato tu a dirlo? Io te l'ho chiesto e tu hai risposto sì, 20.000 euro netti al mese, amica, è colpa mia. Bisogna chiamarlo e chiarire, eh? Ma dopo chiameremo, naturalmente dopo chiameremo. Poi ce l'ha proposto pure per la sua giunta, per la sua lista, che giunta ancora non ci siamo arrivati. Lo facevi già sindaco tu, eh? Voi due giusti per la mia lista, scherzava naturalmente, per fortuna. Voi sareste persone che con questa ironia che e poi alla fine alla base c'è anche una voglia di provocazione e di portare una realtà, sareste anche le persone giuste. Cioè... C'è la tua fotografia. E va bene, siamo qui con il grillo furibondo, con la stampa che attizzerebbe l'odio delle persone, addirittura qualcuno potrebbe eliminarlo, rischio di morire, grillo, ma di che stiamo parlando, signori miei? Quando fu là, laggiù vicino al porto, venne la nuova che il grillo era morto, la ricciunferarillallera, la ricciunferarillallà. La formicuzza dal grande dolore con le zampine si trafisse il cuore, la ricciunferarillallera, la ricciunferarillallà. Quattro grillini vestiti di nero presero il grillo e lo portarono al cimitero, la ricciunferarillallera, la ricciunferarillallera. Stiamo scherzando naturalmente, non è che siamo istigatori d'odio, per carità. Figuriamoci, stiamo scherzando. Grillo dice agli inviati di Piazza Pulita che non sono i suoi media. Beh, forse voleva dire, poi che cosa vuol dire? Per carità, è legittimo non voler rilasciare interviste, eh? Mica ha detto che uno debba rilasciare interviste. Non siete i medium miei. Ma che vuol dire? No, cioè, ma se tutti quanti si sceglie essere i medium, dottor Grillo, saremmo veramente al fascismo. Io me lo scelgo il mio, c'ho il mio, il blog, e scriveremo quando ci... Ma sì, però noi lo leggiamo il suo blog. Io non voglio passare attraverso i vostri medium. Ma perché lei può dire... Ma scusi, però... Scusa. Io in questo caso, devo dire la verità, difendo Beppe Grillo su questo. Difendo Beppe Grillo. Sì, mi dispiace. Su questo lo difendo. Io sono uno tranquillo, cioè non è che ho i pregiudizi. Non è che vedo grillo e vedo nero. Uno può scegliere se fare un'intervista, sì o no, e con chi vuole. Vuoi non fare interviste? Non le fare, vuoi parlare solo attraverso il tuo blog? Ma non è questione di pregiudizio. Ma come ma te no? Cosa hai mangiato in questi giorni? Sei tornato dalle vacanze? Scusa un attimo, perché ma perché io sono costretto a rispondere agli inviati di qualsiasi programma? Perché? Perché sono costretto? Altrimenti c'è il fascismo. Non diciamo stupidaggini. Soltanto nel nostro paese non accettano le domande. Ma che, che significa? Ma che c'entra Grillo? Ma cosa c'entra? C'entra. Allora, tu sei costretto. Se ti viene qualcuno addosso con una telecamera, tu sei costretto a rispondere? Ma no, se sono un uomo pubblico. No, non sei costretto a rispondere. Domande, puoi scegliere. Puoi scegliere con chi parlare. Ma quello certo, non è che dico non sei il mio mezzo di informazione. Ma ognuno sceglie la strategia di comunicazione che vuole. Ma in un paese normale lo avrebbero fatto a pezzetti. Gli Stati Uniti non avrebbe vissuto per un minuto. Di lino, la formicuzza gliene chiese un filino, la ricciunferarillallera, la ricciunferarillallà, disse il grillo. Che poi c'è una polemica tra Renzi e Grillo, si attaccano a vicenda. L'ultima di Grillo è: si è aperta una porta, non c'era nessuno, è una famosa battuta di Forte Braccio, il corsivista dell'Unità. Insomma, Renzi non sarebbe nessuno. Feltri deve andare in bagno durante un comizio con Maroni, sentite. Un comizio, era un incontro. Il giorno delle nozze. Cosa c'è di vero nel dissidio fra te e Tosi? È una domanda. Tu devi rispondere. Non però, c'è niente di guarda, vero. Io ti do. Invenzione dei giornali. Ti posso dare 5 minuti di tempo per pensare e per rispondere a questa domanda? Perché. Voi non so se avete mai visto un giornalista farsi la pipì addosso, rischiate di vederlo, quindi io mentre lui cerca di rispondere cerco di espletare la cosa e ritorno. Eccoci qua con un personaggio per la prima volta alla Zanzara, Valentino Tavolazzi, buonasera. Buonasera. Come Bravo. Sta? Come sta? Sto bene, grazie. Anche voi? Consigliere comunale. Beh, sì, insomma, abbiamo, siamo carichi a pallettoni abbastanza. Bravo, dottor Tavolazzi, bravo. Bravo, ma manco lo conosci, dici bravo. Perché? Ho letto le cose che ha scritto, che ha detto, ha detto cose importanti sul Movimento 5 Stelle. Ora, solamente perché ha preso le distanze da Grillo, anzi Grillo ha preso le distanze da lui, lo ha praticamente, tra virgolette, epurato due volte. Prima perché ha disconosciuto alcune sue iniziative e lo ha espulso dal Movimento, poi perché non l'ha fatto diventare collaboratore di Pizzarotti. Beria Grillo. Vabbè, lo definirebbe una sorta di Beria, Tavolazzi, Grillo? Ma no, cioè, non capisco. Lui ha preso delle decisioni, secondo me, sbagliate. Gliel'ho anche detto, chiaramente. La prima è sbagliata perché non aveva alcun motivo di inibire l'uso del simbolo. Teniamo presente che Grillo è proprietario del simbolo, ma non del Movimento, quindi lui non può espellere nessuno. Al massimo può inibire l'uso del suo simbolo, ma noi stiamo lavorando nel Movimento come prima. Non è cambiato niente. A noi intendo la lista di Ferrara, la lista di Cento. Certo. Sono centinaia e centinaia di persone, attivisti, che fanno banchetti, che seguono i consigli comunali, che si danno da fare. Senta, Tavolazzi, lei lo definirebbe, come ha fatto Bersani, una sorta di fascista del web, perché ha detto zombie, morti che camminano. Mi dica la verità, però, non sia troppo diplomatico. No, io dico sempre la verità. No, ha sbagliato Bersani perché Grillo non è un fascista. Non è fascista. E ha sbagliato un'altra volta perché... definendolo fascista, ha agito anche dal punto di vista della correttezza male. Perché? Perché quando si attribuisce la qualifica di fascista a qualcuno in quel modo, lo si fa esclusivamente per spacciare una superiorità democratica che il PD proprio non ha. Non può fare maestro di democrazia a nessuno. Beh, però all'interno c'è libertà di dibattito nel PD molto superiore rispetto a quella che c'è nel Movimento 5 Stelle, o no? Ma no, guardi, noi territorialmente abbiamo una democrazia applicata, dibattiamo e discutiamo. Sì. Le liste del Movimento 5 Stelle nelle città, nelle regioni... E cos'è che non funziona allora? Non funziona invece un dibattito e un confronto sulle politiche nazionali, sulle modalità di funzionamento del Movimento 5 Stelle, sulla democrazia interna però rivolta verso i temi nazionali, su chi sceglie i candidati, chi stabilisce i criteri. Chi è l'uomo fuori? Cioè, lei sta dicendo che sostanzialmente tutto è bloccato da chi? Da Casaleggio? Ma c'è un problema Casaleggio e associati. Cioè, noi quando siamo entrati nel Movimento lo abbiamo fatto perché Grillo ha attratto con sulla sua presenza, l'attività che ha svolto tra la gente, ha attratto un sacco di persone che avevano perso fiducia nella politica e nei partiti. Lo ha fatto in modo meraviglioso perché io credo che tutti dobbiamo essere, anche chi non la pensa come lui, dobbiamo essere riconoscenti a Grillo per aver avvicinato una parte consistente della popolazione. Ma la coppia Grillo-Casaleggio, come la definirebbe? Noi conoscevamo il Casaleggio come diciamo un braccio tecnico operativo, si doveva occupare del portale, e invece è lo stratega, cioè invece è quello che decide, che espelle, che stabilisce le regole e poi le cambia. Cioè il padrone di Grillo. Cioè chi è più forte? Mi dica la verità, è più forte tra i due. Grillo, io uso le parole di Grillo perché qui è molto difficile entrare nella coppia, diciamo così. Ecco, Grillo, ma la coppia, scusi un attimo, poi torniamo su questo, ma la coppia come la definirebbe lei? Come una sorta, che ne so, Rasputin che stava allo zar, come lo definirebbe? No, saprei, guardi, non ho precedenti. Ripeto, è stato molto bravo Grillo a definire questa coppia. Lui ha detto: io sono l'uomo della comunicazione, l'istrione, l'artista, l'uomo del palcoscenico che descrive, che Casaleggio? E che catalizza. Casaleggio è, lo ha definito così, è lo stratega, è il grande organizzatore, è il manager. Ma che cosa c'è di strano in questo allora? È semplicemente un'organizzazione interna in cui uno fa l'immagine e l'altro fa lo stratega, non c'è niente nulla di strano. Ma scusi, siamo in un movimento politico, d'accordo? Che ha un non statuto, come lo chiamiamo noi, che dice che il Movimento 5 Stelle funziona con la democrazia diretta. Cosa vuol dire? Vuol dire che i cittadini utenti della rete discutono, scelgono, fanno le scelte politiche, individuano e scelgono i candidati attraverso il voto. E invece i candidati li decide Casaleggio? Tutto questo non accade. I candidati li decide soprattutto Casaleggio? I candidati locali, quelli che sono stati individuati nei comuni, nelle regioni che abbiamo partecipato nel 2009 alle comunali, nel 2010 alle regionali, abbiamo mandato su un sacco di gente. Decide tutto Casaleggio. Sono stati scelti dalla base, alcuni di loro erano stati indicati da Beppe Grillo. Oggi il problema è chi sceglie i candidati per il Parlamento. Ah, ho capito. Su questo ancora non si è mosso nulla. Ma Casaleggio, secondo lei, si candiderà? Casaleggio io non lo so che voglia candidare. No, secondo lei, si candiderà lui? Lui. E lei si candiderà a Tavolazzi? No, io tra l'altro non sono candidabile perché sono consigliere comunale, devo finire il mio mandato. No, ma non col 5 Stelle, lei si vorrebbe entrare in Parlamento? Ma scherziamo. Se scegliere oggi di votare tra PD e Movimento 5 Stelle, chi voterebbe? Oggi mi dica la verità. 5 Stelle alla grande, guardi, il PD non lo voterò neanche finché c'è questo. Neanche PD, morto, dice lei. Neanche morto. No, ma guardi che Renzi, che è il nuovo che avanza, sta copiando il Movimento 5 Stelle. Eccoci qui, 18:48, 800 24, 00 24. Non mi dica, caro Tavolazzi, uno di quelli epurati da Grillo, che lei è d'accordo con Grillo quando dice che rischia la vita, che ci sono degli organi di informazione che lo vogliono morto e che istigano la violenza. Non può essere d'accordo su questo, su. Non sono d'accordo, ha esagerato. Tenga presente però che Grillo, che ha sempre girato senza scorte in mezzo alla gente, non ha mai avuto paura di nulla, si è sempre molto esposto. Oggi però lui ha toccato dei nervi scoperti. E allora? Non è solo il tema del no soldi ai partiti, che è già un tema importante. Sì, è vero, però se uno manda a fare in culo tutti continuamente, come fa Grillo, si deve aspettare lo stesso linguaggio dagli altri come minimo, no? Ma non è per le offese che ha ricevuto eventualmente. E che fa anche. E che fa anche, certo. Ma non è quello il messaggio che ha lanciato. Lui ha detto, attenzione, perché la nostra presenza, che è destabilizzante nel sistema attuale, dei partiti soprattutto, può evocare delle reazioni anche non legittime nei miei confronti. Ripeto, ha esagerato, ma i nervi scoperti che lui ha toccato sono quando mette le mani per esempio sul debito e lo definisce immorale, quando dice che sull'euro devono decidere i cittadini una volta che si è spiegato il piano A e il piano B, come dici? No, dico che c'entra, non sarà mica l'unico che dice queste secondo me scempiaggini, cioè non è l'unico, no? Ma non è che per questo rischia la vita. Non fa la vittima in questi casi, scusi Tavolazzi. PD e PDL dicono esattamente il contrario, dicono che va tutto bene, che Monti è a posto, che il problema banche non esiste, che i sacrifici gli italiani li possono fare tranquillamente perché si salveranno in questo modo. Lei dice, nonostante tutto io ancora sono dalla parte di Grillo. No, io sono dalla parte del Movimento 5 Stelle. Guarda, vabbè, il Movimento 5 Stelle Grillo, è Grillo, però, scusi, Tavolazzi. Grillo non è il Movimento. Ma 5 come Stelle. Non è il Movimento 5 Stelle? Dopo glielo due glielo secondi, se non c'è Grillo, dopo due secondi il Movimento 5 Stelle è finito. Su, diciamo questo la verità. Lo dice lei. Ma come questo... no? Ma lo dico io. Questo poteva essere vero un anno fa, due anni fa. Oggi il Movimento 5 Stelle è fatto da centinaia di eletti che si stanno facendo il mazzo nelle istituzioni, nei comuni e nei consigli regionali. Persone teste pensanti che stanno lavorando e stanno facendo ma politica. Senza questo. Ma potrà mancare il megafono, potrà mancare un po' di pubblicità. Ma dopo due minuti si spegne tutto. Se guardi, Grillo dice. Grillo è indispensabile oggi, glielo dico anch'io. Ma non è? Ma il problema è pensare ad un movimento che vada avanti sempre, ho capito, vada ma questo, avanti da solo. Questo da mi pare molto difficile. Sulle gambe degli eletti e dei cittadini 5 Stelle che ci credono. Ma quelli sono eletti perché quelli sono eletti perché Grillo parla forte, perché c'è Grillo, perché ma Grillo fa i comizi. Ma guardi il casino di Parma, Tavolazzi. Se fosse così, non avremmo preso solo 4 sindaci, ne avremmo presi 150, tante quante sono le piazze che ha fatto Grillo. Ma no, ho capito, non è sempre Tavolazzino vincente. Tavolazzino mio, se non ci fosse, mi permette di chiamare Tavolazzino in modo amichevole. Ma sì, chiamalo come ti pare, certo. Tavolazzino mio, se non ci fosse l'autoritarismo grillesco, cioè con queste anche espulsioni durissime, questi richiami, il movimento si sarebbe già squagliato probabilmente, lo sa meglio di me a questo punto. Difenda le epurazioni, vada fino in fondo. Scusi, dai, dia un consiglio, Tavolazzi. Mi lasci dire questa cosa. Sì. Non è vero che il movimento sta insieme perché c'è il pugno di ferro al vertice. È esattamente il contrario. Il pugno di ferro al vertice lo sta dividendo, sta creando delle divisioni interne perché molta parte del movimento non accetta queste azioni verticistiche da reame più che da movimento politico creano delle condizioni di forte disagio. Ma scusi, molti, Grillo le subisce queste cose oppure le asseconda? Credo che Grillo sia molto mal informato e molto mal consigliato. Una sorta di... Che ne so, il problema, guardi, il problema a chi lo potremmo paragonare? Scusi, uno mal consigliato? Beh, abbia pazienza, non può sapere tutto. Grillo, Grillo è una persona che sta lavorando da alcuni anni con grande intensità, ha ottenuto dei grandissimi risultati. Cioè non è informato di tutti, cioè c'è una sorta di filtro, no? Una sorta di filtro. Certo, se gli vanno a raccontare che là c'è Tizio che vuol fare un partito, là c'è Caio che litiga, là c'è Sempronio che sta facendo l'asino, è chiaro che poi i provvedimenti che possono arrivare... Cioè, scusi, mi è venuto in mente il paragone, è tipo Bossi, scusi se faccio questo paragone, lo so che magari è improprio, però mi ricorda Bossi che aveva una sorta di cerchio magico, cioè Casaleggio come il cerchio magico? Si può dire? Di no, perché c'è una grande differenza fra le due no, le due ho capito, però lei mi dice strature. Lei mi dice che non vi... beh, d'accordo, quello l'ho detto all'inizio, cioè no, non è il paragone tra Bossi e Grillo, però c'è un funziona più o meno allo stesso modo, c'è cioè uno no... staff, un cosiddetto esatto. staff che cerchio magico, un cerchio magico, sì. Che produce delle decisioni e delle scelte benissimo. Che gran parte del movimento non condivide. Oh, perfetto. Dunque, si può dire che questo Casaleggio è una sorta di cerchio magico o no? Ma non lo dica lei, io non lo dico, lo penso, diciamolo no. Su, diciamolo, qual è il problema? Mica è un no, insulto. No, ma non c'è un problema, è che il cerchio magico mi pareva fossero più parenti e amici che stavano attorno a Bossi. Qui non ci sono parenti e amici, qui c'è uno staff tecnico che ha assunto un ruolo che nessuno gli ha dato, io credo, se non Grillo probabilmente, ma certamente non gliel'ha data la base. Vabbè, del come il cerchio magico, si può dire, un blocco che funziona così, tavola. No, lo dica lei. Io non no, lo perché non lo dico. Penso e non lo dico. Non lo, però l'ha detto più o meno, perché no la parola no, cerchio. No. Le ho spiegato la differenza, non ci sono parenti, non ci sono amici, va bene. Non ci sono interessi, non c'è il dossier family, non ci sono i soldi sì. rubati, guardi che il Movimento 5 Stelle... qualche interesse ci potrebbe essere, qualche interesse di Casaleggio ci potrebbe essere, però attenzione. Ma l'interesse di Casaleggio come Casaleggio ed associati è già anche questo un problema che è venuto... Perché è un problema? L'antitrust potrebbe aprire un fascicolo, tra l'altro, qual è l'interesse? Il punto è che c'è un'azienda certamente che opera come consulente del Movimento 5 Stelle e questo... Il blog è gestito da Casaleggio. Casaleggio ha ovviamente delle esigenze aziendali di fare profitti, fare utili, eccetera. E dunque? Noi non conosciamo quali sono i rapporti economici tra Casaleggio e Beppe Grillo. Certamente fino a qualche anno fa Beppe Grillo pagava il servizio di Casaleggio. Oggi non so come sia la situazione economico-finanziaria tra i due soggetti. Sta di fatto che è abbastanza anomala la presenza di un'azienda che si chiama staff e poi produce delle scelte politiche dentro il movimento. Credo che questo sia un grosso problema. Ah, non c'è dubbio. Come lo chiamerebbe? Insomma, lei ci sta dipingendo una situazione in cui c'è... È un problema. È un problema che il Movimento 5 Stelle deve affrontare. Ma come lo definirebbe? Un comitato che ha interessi economici? Un comitato d'affari? Insomma. No, non so se abbia interessi economici, io non lo posso dire. Beh, ce l'ha, sicuramente ce l'ha. Io dico le cose che so. Credo che un'azienda, Casaleggio ed Associati, all'interno di un Movimento 5 Stelle, che non fa solo lo staff tecnico, cioè gestione del portale, ma fa scelte politiche. Casaleggio doveva realizzare un portale nel quale noi avremmo dovuto ma a chi assomiglia, scusi, che dobbiamo concludere, a chi assomiglia fisicamente Casaleggio, questi sorti di nodi? Mi sembra un John Lennon, direi. Un John Lennon oppure molto alto. È uno di quei consiglieri occulti, strano, una sorta di Rasputin, una sorta di no, fisicamente è più vicino a John Lennon, ha John gli stessi occhiali, si presenta così, come un Beatle prima maniera, ma è molto stimato e conosciuto, è una persona di grandi professionalità, non c'è problema su questo. Però c'è un conflitto di interessi, giusto? Conflitto di interessi. Ha nel movimento, insomma, è un ruolo pesante perché le scomuniche partono da lui. Ho capito, grazie Tavolazzi, molto gentile, a presto. Siamo qui, 800-24-00-24. Dove sei, Parenzo? Dove sei? No. No, c'è Facci, avanti. Solito duetto tra Facci e Parenzo. Qualcuno risponde al telefono? Parenzo pronto, o Facci? No, pronto. Sei tu. Sì, eccoci qui. Hai finito di fare il buffone con Facci o no? No, perché hai detto subito Facci? Beh, chi vuoi che sia a quell'ora, alle 19:15? Filippo Facci, urla, no? Ma sì, che urla, che fa il matto. Non c'è, un editorialino da offrirci? Sì, vuole un editoriale. Aspetta un attimo, te lo passo su. Editoriale di Filippo Facci, così io devo chiudere un'altra cosa. No, bravo, non devi chiudere niente, fermo lì. Devo fare un altro lavoretto. Ma che l'altro lavoretto? Ma stai zitto. Devo pulire, guarda che ti mando amici miei, i 45 no, minuti. Ti passo facile, no, stai attento tu. I 45 attento. Minuti della... Stai attento, sì, non essere selvaggio. Vieni qui un attimo, Filippo, prego. Pronto? Sì, editoriale di Filippo Facci, su Filippo, dai. Ultima, ultima settimana alla 7, ti ha fatto schifo fare la 7? Fare in onda? Non parlo di questo. Non parlo di questo. Non è importante per il paese, è un altro argomento. E allora fai l'editoriale su quello che vuoi, dai. Allora, pronti via. Ma scusate, ma se uno inizia un'inchiesta nel settembre del 91 che poi nel 17 febbraio del 92 sfocia nell'arresto di Mario Chiesa, a parte che ha fatto in tempo a parlarne a qualsiasi console, eccetera, eccetera, e che era stato e a parte che era stato cacciato da Bergamo, sto parlando di Antonio Di Pietro, anche per delle ragioni legate al fatto che aveva la lingua lunga e parlava troppo, come era accaduto durante una festa. Ma a parte questo, voglio dire, ma se c'era Francesco Saverio Borrelli che voleva chiudere l'inchiesta Mani Pulite in una settimana per direttissima, l'ha testimoniato lui e l'ha raccontato anche Di Pietro, che razza di come posso dire, di complotto della CIA può essere quello? Non confondiamo, voglio dire, un complotto prepensato e preordinato con una convergenza di cose, tipo la classica palla di neve che rotola giù per il pendio e si carica di quale e di quanta neve, questo è l'interrogativo inquietante, allora, che non ci lascerà in pace per i prossimi 20 anni, ecco, ma per cui Parenzo sta per dare una risposta straordinaria e perciò ve lo passo. No, ma il fatto è che questa è la prova provata che della questione di Mani Pulite, di quello che è successo nel 92, non ce ne frega assolutamente nulla. Ma titoli del TG3, titoli del TG3, stai zitto, basta, voglio parlare con gli ascoltatori. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Più di 20.000 fedeli a Milano per i funerali del cardinale Carlo Maria Martini, un pastore generoso e fedele della Chiesa, scrive Benedetto XVI. Draghi, legittimo l'acquisto dei titoli degli stati in difficoltà per il ministro Schäuble, la corte di Radici e la Merkel attacca agli speculatori. Sospesa l'occupazione della miniera della Carbosulcis dopo le garanzie del governo, resta la mobilitazione in attesa di un nuovo progetto sul carbone pulito. Crollano le vendite di auto in Italia, male la Fiat, Marchionne domani a Belgrado per verificare gli impegni del governo serbo, oggi cassa integrazione a Cassino. Nel 2013 il candidato sindaco sono io, Alemanno smentisce le voci su un suo possibile ritiro chiesto da Berlusconi, il Cavaliere, invenzioni dei giornali. Parità nei sondaggi tra Romney e Barack Obama, massima incertezza 2 mesi dal voto per il prossimo presidente americano. Al via domani tra le polemiche, test di ingresso nelle università numero chiuso, si comincia da medicina, sul web i consigli per superare la roulette dei quiz. La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. E beh, abbiamo una collezione di perle di Vendola che stai a dì, che ci ha offerto questo weekend, che ci hanno offerto gli ultimi giorni. Innanzitutto senti cosa dice sulla foto di Vasto, la foto di Vasto, la famosa foto di Vasto, ormai praticamente finita. La foto di Vasto è monosessuata. Monosessuata, Parenzo, monosessuata. Una riunione modesta, come quella a Vasto, tra me, Bersani e Di Pietro, con una fotografia modesta, per tante ragioni. Perché siamo tre maschi e non c'è alternativa e cambiamento se monosessuato. Non c'è alternativa e cambiamento se monosessuato. Ma che vuol dire? Poi senti, grandi potenze contro la foto di Vasto. Questa è bellissima. Tuttavia, la foto di Vasto, così timida e così modesta, ha fatto paura. Tanto che si sono mobilitate grandi potenze perché non ci fossero elezioni anticipate. Le grandi potenze hanno avuto paura della foto di Vasto. Poi cosa c'è di altro? Mettete voi, su, regia. Noi maschi queste cose le abbiamo sempre fatte, ma piuttosto di nascosto. Nelle caserme, nei bordelli, negli angoli del maschile, la mafia del maschile con le battute salaci sulle donne. Non era mai accaduto che invece si trasferisse dall'angolo buio e un po' loffio della mafietta al maschile nel cuore dello Stato, un linguaggio così profondamente offensivo, così intimamente violento e, dico io, omicida nei confronti delle donne, come è accaduto nell'epoca berlusconiana. Avendola, ma che stai a dire? Ma mica ho capito bene, mi pare. No, non lo rimando, per carità di patria. Ero anche concentrato, ma non ho mica capito bene. Ah beh, lo dici, cioè, è una cosa pazzesca. Dai, no, una la cosa... questione della mafia maschile, la mafia femminile, non ho capito. Va bene, è intanto... un po' pannella nelle immagini. Sempre, forse. Beh, un po' sì, c'ha il linguaggio pannelliano. Sempre sulle note... di Vendola, Sgarbi dice che non leggere Marra, l'avvocato Marra, no, te lo dico, è una nuova ignoranza. Nuova coppia si è formata, Sgarbi-Marra. Viene già da ridere. Il sistema, per fermare i libri di Marra, gli ha scatenato contro i silenzi e le parole di chi ha il potere di influenzare il pensiero. Ma è una violenza, perché sono libri di un'importanza e di una verità incomprimibili. Sono la nuova cultura. Leggili, non conoscerli, è una nuova ignoranza. Ma si è impazzito improvvisamente il nostro Sgarbi. Cosa gli è successo a Vittorio? Ma non ho capito. Cioè, non leggere i libri di Marra, dell'avvocato Marra. Sì, quello che stava con la signora Tomasi. Tomasi, sì. Sì, quello che ha promosso tutte quelle iniziative contro le banche. Fermiamo, contro il signoraggio banche, bancario. Non si può fermare Marra invece delle banche. Fermiamo Marra e Sgarbi, questo deve essere il nuovo movimento. Non leggere Marra è una nuova ignoranza. Lo dice pure con una musica. Sì. No, di sottofondo. Manco con una certa, fosse il grande Moravia, scusa. Una certa seriosità. Ma vogliamo chiamare Fede un attimo? Sì, proviamo. Sì. Proviamo a chiamare Fede. Ci adesso. Che dici? Pensaci tu, inizia tu. Facciamo fare la segretaria. Di chi? Facciamo fare la segretaria di il segretario di Confalonieri a Facci, che è qui. No, come il segretario di Confalonieri? Diciamo, adesso qui Facci. Sì. Tu chiami Fede. Sì. Filippo, che è qui. Sì. Dice, dottor Fede con la voce femminile fa finta di essere la segretaria. No, come la segretaria? Allora ci penso, e poi così ce lo facciamo. Vabbè, pensiamola meglio. Penso io come con voce da donna, ci pensate, mi dicono che ho la voce da donna, per cui ci penso io. No, ma come fai? Poi gli passi chi? Con Falonieri? No, poi dopo lo salutiamo, gli diciamo, ecco, siamo noi, ciao, come stai? Vabbè, facciamo sto telefono, dai. Proviamoci. Dai. È occupato, dopo. Nicola da Trapani, buonasera, 800 24 00 24. Nicola da Trapani. No, quello è da Bari, sarebbe, da Trapani, nella Sicilia. Nicola, ah, dica. Vero, sì. Siamo da Trapani, qui Cruciani, noi classifichiamo i siciliani, classifichiamo le persone fra uomo e nome nicchio e qua. Sì. No? Sciascia. Ora io a te ti classifico come un uomo nicchio. Un uomo nicchio. Lo potevo semplicissimo. Scusi, Nicola, ma noi ci siamo dati del tu, siamo mai stati a cena insieme, e abbiamo mai bevuto un bicchiere insieme? Questa è tutta la testa che fa. Ci diamo del lei, non c'è problema. Bene. Lei è un uomo nicchio, perché sono un uomo nicchio. Bene. Il forte con i deboli e il debole con sì. I deboli. Quando chiama la Santa Chè che spara delle cazzate volanti, non sì. Dice nulla, dice effettivamente. Beh, appunto, sì, magari perché, no. Magari perché gliela voglio far dire, che dice lei? Quando chiama un radioascoltatore e dice che cazzate, che stoneria, ma che dice stronzate. Chiama questo tavolozzi che parla di teste pensanti, cerchi magici e via discorrente, tu sì, effettivamente, giusto, può darsi che ha ragione. Vabbè, andiamo al sodo, amico mio. Deve essere coerente, Cruciani, deve essere coerente, deve essere forte con tutto, debole sì. Con tutti. Bravo. Questo è il problema. Va bene, ha detto la sua. Non ti piace, visto, ti attaccate, non ti piace, perché tu... Ma è sempre la stessa litania, sempre la stessa lagna. Ma se è così, non puoi metterti la coda in mezzo alle gambe con i forti. Nicola, ha finito la sua lagnanza? Ho finito. No, non ti piace, ho finito. Ha finito. Ciao. Arrivederci. Giuseppe dalla provincia di Chieti. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Finalmente è tornato pimpante e ricaricato con le ferie, no? Hanno fatto bene. Ma è già una settimana che siamo tornati, eh? Lo so. No, ma prima delle ferie aveva fusato completamente. Cioè, vabbè, andiamo, Giuseppe, di che vuole parlare? Allora, due domande veloci indiscrete, no? Allora, indiscrete, sì. La potente lobby dei gay, l'associazione dei gay, vi ha rinnovato lo sponsor? Parezzo, rispondi tu? Poverino. Senta, la sua esatta ubicazione. Scusi, dottor Cruciani, cioè il bip, quando io ho fatto installare il bip, quando, siccome ho chiamato un tecnico e ho fatto mettere alla radio un bip, quando la schiappa al cubo che lei ci aveva come aiutante prima, io sento solo flatulenze. Allora bip, questo me lo rifà ancora la radio? Sento solo flatulenze in questo momento. Sento solo flatulenze, non parole, sento solo flatulenze. Cruciani, la radio mi fa bip, il sensore che e che vuole fare? Peggio per lei? Che sensore sento ha fatto mettere? Sento solo meteorismo, non parole. Il sensore, scusi, il sensore, prima delle ferie, ho chiamato il mio tecnico personale, mi ha montato il sensore che appena parla la schiappa al cubo, fa bip la radio. La schiappa al cubo chi sarebbe, Parenzo? Sì. Il suo aiutante raccomandato dal bolscevico Telese, no, che è pagamentalino, cioè, allora il suo aiutante, io ho mandato pure un paio di messaggi, no? Vabbè, Giuseppe, ha fatto mettere un bip quando parla lui, praticamente le sono scuse. Allora, è detto che le droghe fanno male. Non mi ha risposto, dottor Cruciani. La potente lobby associazione gay l'ha rinnovato lo sponsor. Siamo sponsorizzati ancora dal Gay Pride fino a tutto il 2012, per la stagione 2012-2013. Ma guarda, mi fa piacere per lei. Le dà fastidio? Il budget, le dà fastidio? Beh, siamo passati da 1 milione di euro a 1,5 milioni di euro l'anno. Perfetto, mi fa piacere. Poi la seconda domanda che volevo. La seconda dire. Domanda. Guarda che qualcuno ci crede poi. Indiscreto, no? Allora, il beat mi continua. Continua a inserirsi. Io continuo a sentire solo meteorismi, non allora, parole. Io avevo mandato messaggio. Questo qua, il suo aiutante, schiappa al cubo, dove andare a lavorare come facchino, come manovale. Continuo a sentire solo ventosità, non parole, solo ventosità, flatulenze e meteorismi, non parole, non sento parole e ragionamenti, solo flatulenze. Se lo tolga di torno, dottor Cruciani. Va bene, Giuseppe. Arrivederci. Grazie. Mario da Pisa, buonasera. Buonasera, Cruciani. Sì. Io volevo fare un invito a lei e alla trasmissione. Sì. L'ora di finirla, di dare addosso al PD e di mettere in croce Bersani e di tirare la volata a Renzi? No, non ho capito, scusi. Cercando di essere un po' più obiettivi. Ma su chi, scusi? Non ho capito. Non ha capito. No, non ho capito nulla. Allora, io tirerei la volata a Renzi contro Bersani? Sì. Lei mi attribuisce troppo potere. Non siete obiettivi. Non siamo obiettivi. Senti, politicamente è ancora un bimbetto. A me non me ne può fregare. Scusi. Non ho capito, Mario, che lei non abbia simpatia nei confronti di Bersani e di Renzi mi pare evidente. Che poi lei voglia proibire a me di esprimere una simpatia tira la volata, ma che volata, non ha bisogno. Non è obiettivo. Sì, io tra obiettivo. E chi se ne frega, infatti non sono obiettivo. E infatti non sono obiettivo, me ne fotto di essere obiettivo, dico come la penso. Ha problemi sì, a riguardo? A questo punto qui la punturina, si ci vuole a te a tu compare. E vabbè, faccia la punturina, il punturone vi ci vuole. Ma perché il punturone? Perché non siete obiettivi, non si fa la trasmissione, cioè tirando la volata. Ma quale volata? Quale volata? Se lei me lo chiede, io le dico che preferisco Renzi a Bersani. Allora, mi faccia mente locale quando ha elogiato Bersani. Ma che ne so, ma non, evidentemente non ho avuto occasione di farlo. Ma qual è il problema? Scusi, mai. Ma non le piace più uno che parla chiaro piuttosto che uno che usa mille distinguo e che non si sa bene quello che pensa? Io preferisco Renzi a Bersani, allora? Qual è il problema, Mario? Va bene, ma cioè, almeno lei lo sa, no? Obiettivamente, cioè, si riconosce anche i meriti di Bersani. Ma non lo so, ma non sono mica. Ma non ho la tessera del Partito Democratico. Non mi interessa riconoscere i meriti. Io sto dicendo tra l'uno e l'altro preferisco Renzi, punto e basta. Cioè, è molto semplice la cosa. Non sto tirando nessuna volata. Preferisco Renzi a Bersani, punto e basta. Qual è il problema? Lei lo sa, ma non per questo non vedo i difetti dell'uno o dell'altro, Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Pronto? Emilio? Sì, Emilio. Perché ce l'hai con noi? Non ce l'ho con voi. Ma sì, ce l'hai con noi. Oh, vi adoro, vi amo. Ma non è successo niente, non abbiamo fatto nulla, abbiamo semplicemente... No, lo so, non ce l'ho con voi in questo momento. se ci sentiamo più tardi non ce la proprio. Che è successo, poi. Emilio? Che è successo? No, perché sono arrivato da una grande faticata, perché dovevo fare un trasloco e spostare mobili. In questo momento sono stanchissimo. Ci sentiamo dopo perché sono completamente cotto. No, ma sembra che stai piangendo. Scusa, Emilio, sembra che stai malissimo, che stai piangendo. Ah, ma chi parla? Beh, noi, della Zanzara. No. Ma siete voi? No, dai, su, per favore, mi avete fatto un casino, sono pieno di telefonate, di insulti, di minacce. Ma perché? Ma dai, su, per favore, ma sai che un continuo, è ladro, e tu, e ma noi, come ladro? E noi che guadagniamo poco, io sono un operaio, oh, mamma mia, ma mettermi sotto processo per 20.000 euro, dai, poi anche mia moglie ha detto, ma chi te l'ha fatto fare, perché devi dire anche i soldi che mandi alla famiglia? Cioè io perché se no la mia bontà, no? No, no, guarda, dovete trovare il modo, lo dico anche per voi però, sì. Perché sai, allora che cazzo, allora insomma, quello che firma il contratto a 60 milioni di euro di calciatore che fa, lo devono ammazzare. Ma guarda che noi, scusa, io lo sai che ho risposto via Twitter a quello che hai scritto. No, e non ho l'ho ancora letto. Ecco, se leggi, se vai su Twitter, io ho risposto, quelli che insultano e minacciano e rompono i coglioni a Emilio Fede per telefono o su Twitter per quello che guadagna sono degli infami, degli stronzi. Ecco, no, io lo pensavo che fosse uno di quelli, che per questo ho risposto, no, per favore, siamo noi, siccome sono, guarda, ossessionato, guarda, ti giuro, mi devi credere, guarda, io ho finito adesso a terra Lombardia, non ho parlato di questa cosa naturalmente, ma proprio guarda, cioè, poi sai, ti posso dire, in una fase così, perché poi alla fine sono una persona civile, sì. In questa fase difficile di rapporti, io dico, anzi l'avete detto voi e l'abbiamo sottolineato, di Confalonieri, metti solo Saviano. Cioè, ma no, ma ho capito, ma la notizia era Saviano, non vuoi Confalonieri, dai, su. Se mi vuoi dare una mano ci aggiungi anche Confalonieri. No, però scusami Emilio, il punto adesso non è quello, ti aggrediscono perché tu hai detto questa cosa dei 20.000 euro, io su questo... Non hai idea! Che ti hanno detto? L'hai visto i tweet, cosa hanno fatto? 100 tweet a dire vergogna, e dice... Ma sono stronzi invidiosi! Ha fatto il titolo, si vergogna... Non è contento, ma sono invidiosi, Emilio. Ognuno ha il suo stile di vita, poi ognuno ha il suo budget nella vita. C'è chi campa bene e chi si accontenta di guadagnare 3.000 euro, ha sempre guadagnato con 3.000 euro. C'è chi invece ha avuto un tenore di vita superiore e dunque vuole rimanere con quel tenore di vita. Qual è il problema? No, giusto? Ma il mio tenore di vita, allora la macchina, io pago il leasing 1.400 euro al mese, chiaro. La cameriera, sia pure a mezzo servizio. Mi costa 1.000 euro al mese. Sì. Poi? Ho due fratelli disoccupati, ai quali ogni tanto, soprattutto a uno, mando un sostegno. Un altro rimasto senza lavoro da trovare a Sharm el Sheikh. Cioè, non sono una persona che vive da milionario, capito? Questa è la verità. No, ma è... certo, no, aspetta, può sembrare... La cosa più grave, sì, qual è? La cosa più grave, che io che contavo sul fondo pensioni, sì, per il quale i versamenti sono 60 anni di versamenti, e che sono la bella cifra di 500-580 mila euro, sì, va bene, che quindi io stavo a posto, cazzo, mi danno, dice, aspetta, adesso vediamo quando è che li puoi avere, perché ho supplicato, dice, guarda, proprio a voler fare presto, fra sette anni. Tu dici, magari sarò morto, per carità, no, speriamo di no. Sarò pure morto. Scusa, ma chi è che ti ha minacciato in queste ore dopo quello che è uscito? Guarda. Ma a Mediaset erano incazzati? Sì, no, sì. Io non ho sentito nessuno di Mediaset, per la verità. No, mi ha mandato, devo dire, un messaggio, uno scambio di civile con Toti, ma al di là di questa cosa qua, non c'entra niente, anche perché non è che posso continuare a fare le guerre con tutti. No, però tu hai ragione quando dici, io sono l'unico che dice quanto guadagna, giusto? Certo. Esatto, ecco, bravo. Ma bravo, guarda che io l'ho detto subito, perché ci hai insultato su Twitter? Su Twitter ho letto delle cose, hai scritto dei tweet pazzeschi su di noi. Sì, è vero. Perché eri arrabbiato, perché? Hanno violato la mia privacy. Certo che sono arrabbiato, cazzo, ho passato 48 ore sveglio. Guarda, io ero forte dei marmi, non ho dormito tutta la notte. Ma perché? Perché non è? Arrivavano telefonate e su, a parte tweet, ma telefonate, perché purtroppo il mio telefono, per quell'accidente di Dago Spia, va bene. Che c'entra Dago Spia? Santiago Spia l'ha mandato in onda il mio telefono, ma tu lo sai che oggi anche hanno scritto, aspetta, sì, dove l'hanno trovato scritto, mi ricordo dove, cercasi in bianchino per appartamento di quattro camere eccetera e chiamare Emilio 335. Va bene, per tutti. Beh, ma sai, mi rendono la vita difficile. No, ma mi dispiace. Cioè, ma non capisco chi l'ha diffuso il tuo numero, Dago Spia. Sì. Cioè, il tuo cellulare. Il tuo cellulare. Il mio cellulare, certo. Cioè, l'hanno scritto nero su bianco. Cioè, nero su bianco, su internet. Certo, nero su bianco. E io sono veramente incasinato. Ma non ti devi vergognare per quello che hai guadagnato, anzi. E per quello che hai, per questo contratto, per questo buon contratto che hai ottenuto. Scusa, senza buonuscita, perché giustamente c'è la crisi. Sì. E allora io sono andato via con. Adesso ho questo nuovo contratto che non prevede nulla di più, sì, che uno stipendio per tre anni, sì, tre anni con la possibilità, sì, che loro possano scinderlo con 6 mesi di anticipo. Quindi, cioè, noi però non siamo istigatori della violenza, dai, su, no, Emilio. Voglio dire, nei confronti della gente, sì, ve l'assicuro, io non hai idea, non ti bastano 20.000 euro, io sono un minatore, non ti bastano 20.000 euro, io non c'ho da mangiare. Capisci, mi sono trovato a dovermi guardare. Ma questo lo capisco, per carità, però no, istigazione alla violenza per la zanzara mi sembra un po' esagerato, violenza, scusa. Mica fisica. No, ma lo so, ma anche fisica volendo, tu non hai paura di girare per strada, che magari la gente ti aggredisce? Sì, io ho paura di girare per strada, ma non soltanto per questo, perché ormai mi trascino da tempo il bene e il male da parte della gente, cioè, capito? Quindi io sono anche, io adesso... Poi ti ho dato la scorta adesso? Ma sai, per quel che può valere, ma io... Ah, hai la scorta? No, la danno quando c'ho da andare magari in situazioni di pubblico. Ma la vuoi chiedere? La vuoi chiedere dopo le minacce che ti sono arrivate su questa storia di 20.000 euro? Pensavo che questa polizia postale, abbiamo fatto un appello proprio, sì, con voi, mezz'ora. Ma adesso posso... qualcuno, ma no, perché noi non l'abbiamo tirata fuori bene questa roba, dobbiamo tirarla fuori con la polizia postale, adesso sì, chiamiamo qualcuno della polizia postale. Non si hanno cagato né a voi né a me per niente. Ci pensiamo noi adesso, direttore. No, ma perché se no altrimenti non è che si può dire solamente questa storia di 20.000 euro, bisogna, no, pure, infatti, bisogna pure... appunto, esatto, capito, ma che solo, la mia vita è solo quella, alzati ragazzi. No, non ho capito, mi stavo mandando a fanculo pensando ci siamo noi di nuovo, allora ho pensato sì, va bene, il solito, capisci, perché c'è quelli che chiamano e ce n'è uno, guarda, una persecuzione, Ma io voglio dire, mi dispiace sentirti così, direttore. No, mi è sembrato addirittura che, ma hai pianto in questi giorni? Sì. Com'è? Hai pianto in questi giorni? In queste ore, da quando è uscita fuori questa cosa dei 20.000 euro, ti sei messo un po'... devo dire, ho avuto delle difficoltà psicologiche, ma anche di rapporti familiari, perché giustamente mia moglie dice, ma se anche tu mandi qualcosa a casa, non c'è bisogno che lo dica lì. Ma sai alla fine... Ma tu sei te stesso, alla fine dici le cose... sono me stesso, perché un altro poteva dire, scusa, sono cazzi miei. No, questo non riguarda una domanda... Giusto, è giusto. È di quello che mi dovete dare atto. No, ma io do atto. Guarda, se questo tu leggi i tweet di risposta, anche quando adesso tu hai parlato, anche quando hai parlato di istigazione alla violenza della zanzara, io ti capisco, perché uno può essere arrabbiato. Io ho risposto subito, caro Emilio, dicendo chi chiama Fede e chi lo insulta per questa storia dei 20.000 euro è un cretino, è un imbecille, è un infame. Ma quando l'avete fatto, come lo leggo? Ma io subito, ma chi li scrive sui tweet tuoi? Scusa, li scrivi tu, no? Sì, non vai a controllare, scusa, non vai a controllare le risposte. Sì, ma non è che sia tanto, per vedere un tuo Facebook. Ma forse portato. Manco mi segui tu su Twitter, quante persone sei? No, non segui nessuno. Faccio tutto da solo, perché me li leggo, poi la notte me li rispondo, eccetera, eccetera. Ma mi fa piacere, avessi saputo, adesso farò tweet dicendo questa cosa qui, cioè un chiarimento. No, ma soprattutto non c'è nessuna operazione, non è che facciamo le operazioni noi. Ma io ho capito a questo punto, vabbè, tu hai capito la situazione in questo momento... Mi piace proprio sentirti così, perché tu che sei un leone che combatte, sentirti così per un paio di cretini che ti insultano per quello che guadagni. Poi certo, forse dire 20.000 euro... forse un po'. Sì, no, che magari... Cosa dovevo fare? Dovevo mentire e dire 10.000? Mentire. No, ma forse dire mi serve per vivere, ho delle esigenze, capito? Quello, ma no, ma in realtà cosa ha detto? Ha detto che sono pochi rispetto a quelli che merito da Mediaset, mi hai detto. Come? No, tu hai detto quelli rispetto a quelli che meriterei, diciamo, no? Cioè rispetto a quelli, ecco, a tutto quello capito. Che ho... No, allora ti spiego. Io nel contratto ho una clausola. E qual è? Che no, di non dire mai nessun particolare di quello che è avvenuto prima, durante e dopo. Ecco. È quello che mi ha sconvolto. Cioè non puoi parlare, non puoi parlare delle cose, non puoi parlare di tutte le vicende. Esatto, bravo, bravo, bravo. Interne a Mediaset, i tuoi contrasti con quello, con quell'altro. Quello è che mi ha sconvolto, non il resto. Ho detto, cazzo, nel momento in cui io quindi cambio il contratto, sto, infatti ho fatto le prime proposte. Ma di cos'è che non puoi parlare? Scusa, di cos'è che non puoi parlare in particolare? Ciò che riguarda il cambio del contratto. Vabbè. Di tutti i particolari che sono proprio contenuti in una delle clausole. Cioè dunque tu non potresti nemmeno rivelare il contenuto economico del contratto? Certo, esatto. E dunque ti potrebbero cacciare adesso? Non lo faranno, ma potrebbero dire, ecco, lo vedi? Non riesce a mantenere, capito cosa voglio dire? Ho capito, ho capito. Ma cos'è? Bisogna fare un appello. C'è solo questo, solo questo che mi ha mandato in tilt. Certo. Io mo ricominciamo punto da capo, capito? Certo, ma di che cos'è che non puoi parlare anche? Dei tuoi contrasti, di quei... Non puoi fare interviste su Mediaset, questa è la sostanza. Non potresti... No, io non posso dire i termini attraverso i quali, o la norma attraverso i quali, come si dice... si è cambiato il contratto da quello che era a quello che capito? Vabbè, comunque è anche normale questo, un'azienda, ma no? Sì, un'azienda si tutela. Per questo mi sono trovato, ecco, adesso mi fate riflettere, e per questo mi sono trovato diciamo così in difficoltà quando ho visto questa cosa. Dico, Dio, adesso che succede? Che mi rimettono in discussione il contratto, capito il discorso? Ho capito benissimo. Ma sono persone di cuore in quell'azienda. Ma sì, lì. Dai, poi dai, fai una telefonata a Silvio, si risolve tutto, su Emilio, dai. No, ma poi il rapporto è stupendo, perché ci mancherebbe altro. Soprattutto sì? Mi spiaceva di fare la figura di quello che non mantiene la parola. Firmo sigo un contratto e poi alla fine lo violo, capisci cosa voglio certo, dire? Certo, ma tu gli puoi dire, io sono Emilio Fede, il direttore di Confalonieri. Siccome io ritengo Confalonieri un amico, e voi l'avete sostenuto più ancora di me, tant'è che io ho detto, se si fosse candidato sarebbe diventato sindaco. No, ma noi sosteniamo la candidatura di Confalonieri. Ma qua ormai non esiste più la candidatura. Come no? Sì, ma sì, a che sì, cosa? Sì. La candidatura a che? No, a qualunque cosa, anche vabbè, al soglio pontificio. Beh, adesso al soglio pontificio addirittura. Qualunque cosa. Comunque, vabbè, guarda, Emilio, guarda, ci dispiace di queste aggressioni che hai subito. Bene, Ti voglio bene, vi ringrazio, vi saluto. Ti abbracciamo fortissimo, ma non piangere. No, piango, non piango. No, non possiamo sentirti con questa voce, perché guarda, non è da te. Non è da me, sono ciao. Un vecchio leone. Ciao. Ciao. Ho sdentato, ciao. A presto, ciao. 1946 800 24 00 24. Andrea da Milano, buonasera Andrea. Piace proprio. Sì. Buonasera. Dica. Senta, volevo manifestare la mia solidarietà a Berlusconi. Amici ingrati che dicono che non è generoso. Poi si trova una consigliera come la Santanchè. Voglio dire, Nixon aveva Henry Kissinger, lui si trova la Santanchè, poverino adesso. È chiaramente un uomo in difficoltà. Beh, non è che sia l'unica stratega, l'unica consigliera. Tra l'altro, c'è la Santa anche Maria Rosaria Rossi, ad esempio. Beh, c'è la signora Maria Rosaria Rossi. Che culo! Vabbè, Rudy, non faccio ironia sui consiglieri di Berlusconi. No, ma mi faccia dire una cosa. Nella malagorata ipotesi, non accadrà, ma nella malagorata ipotesi che questo vinca le elezioni di nuovo, no? Lei se la immagina la Santanchè ministro degli interni? No, vabbè, ma quelle sono quelle fantapolitiche. Mi perdoni, mi faccia dire, attacco terroristico sull'Italia. Ma dov'è il ministro? È da Prada, ci sono i saldi. Ho capito. Ma scusi, questa qua è un'ipotesi irrealizzabile, la Santanchè ministro degli interni, scusi, è un'ipotesi francamente... Guardi, se uno dei consiglieri più ascoltati, se dovesse vincere, poi sarà sicuramente ricompensata, insomma. Ma no, non può fare il ministro degli interni, su, sia buono, Andrea. Beh, scusi, perché se ministro dello sviluppo economico c'era da essere felici, se lo immagina lei? Vabbè, ministro dello sviluppo economico potrebbe avere anche un senso, in teoria, no? Potrebbe avere un senso, imprenditrice, eccetera, eccetera, o no, oppure un incubo pure quello. Ma stiamo scherzando? Ma che dire? Ne so, ma non lo so. Va bene, grazie. Vabbè. Andrea, grazie. Però voglio far sentire la Santanchè che se vincerà Renzi le primarie del Partito Democratico, sempre che le primarie si facciano, lo bacerà. Sentite. Se Piazza Pulita dalla sua parte, sarebbe onore al merito. Se riesce a far fuori tutti qua che stanno lì da 30 anni in Parlamento, non hanno mai lavorato un'ora, però applaudirei. Ma io sono contenta che vinca, ma guarda, a me Renzi non lo trovo neanche un mostro di capacità, onestamente, mi sembra anche molto, insomma, molto fumo, non tanto arrosto, però se Renzi è capace con la sua campagna per queste primarie di questa gente che da 30 anni che sta in Parlamento, che è triste, che è noiosa, che non ha mai lavorato e che pensa ancora a una politica vecchia e che vince Renzi, guardi, vado, gli stringo la mano, lo bacio e dico with my compliments. Siamo qui 800 24 00 24. With my compliments, ma ti rendi conto? Aldo da Torino, buonasera, anzi non c'è, Max da Milano. Max da Milano, buonasera. Max? Pierpaolo da Modena. Ragazzi, c'è qualcuno? Pierpaolo, dica. Sì, dica. Cosimo sono da Manduria. Cosimo da Manduria. Cosimo da Manduria, sì. Ragazzi, mi liberate la schermata un attimo perché non capisco più nulla. Parenzo, qui c'è un po' di confusione. Carlo da Como, allora. Via, Carlo. Sì, eccomi qua. Eccoci qua, via. Oh, è un'ora che aspetto. Mi sono sentito anche le lagne di Fede, che insomma uno semina e poi raccoglie quello che ma chi ha seminato? Non me ne può fregare di meno uno 20.000 euro che cazzo con quello che sta succedendo. Comunque, a prescindere da questo, visto che il programma come solitamente salta da panifra così, non ho un motivo, allora volevo riallacciarmi, se me lo permettete, a un così a quello che ieri diceva la Santa Chea, no? Chiamiamola signora comunque, sì, allora? Ha detto tre cavolate e si è contraddetta tre volte. E mi piace perché voi fate finta di dargli importanza, queste non capiscono che li prendete per i fondelli e loro si sforzano di essere seri, e questo mi piace perché io ascolto molto la vostra trasmissione ed è per questo che l'ascolto. Vabbè, dunque, quindi saluto lei e anche il suo braccio fedele, braccio destro fedele che è lì con lei. Quindi volevo dire soltanto questo, la signora Santa che ieri sera diceva questo, probabilmente vi sarete accorti anche voi, allora, che è più interessata al sistema cerebrale che di quello visivo, di quello fisico, no? Lei che è più rifatta che la Salerno Reggio Calabria, già è stata una... Ma lei è presente a se stesso, signor Carlo? Ma ha fatto ridere, prego? E lei è presente a se stesso? No, scusi, lo sento male. Sì, lei è presente a se stesso, Parenzo, glielo vuoi dire tu? Cioè? È in sé. Il signor Cruciani le sta chiedendo se lei è nelle piene facoltà di intendere e di volere, perché dal suo argomentare parrebbe di no. Ecco, va bene, ok. Allora, ma potete ammetterlo, perché voi, già questo... Voi avete le vostre idee, io le mie, giusto? Sì. No, non le nostre, qui è proprio una questione di psicanalitica, cioè è evidente che lei non è lucido, ma poco male, può capitare, è un momento. Sì, dunque... Allora, lo diciamo noi. Vuole chiamare l'ambulanza? Chiami. No, io ancora. Posso continuare a dire la mia? O... Sì, un'altra cosa. No, non è un caso così grave che necessita. Allora, mi avete chiamato, posso parlare? Sì, no, lei ha chiamato. Ha chiamato lei, veramente. Comunque, però, dica. Va bene. No, mi ha richiamato gentilmente. Vabbè, per forza, per non far pagare, certo. Carlo, quindi, allora? Ma io pago anche, guardi che non c'è problema. Non prendo le 20.000 euro di Fede che piange. Ecco, quindi avrei chiamato anch'io se c'era da pagare. Vabbè, Carlo, la ringrazio. Arrivederci. No, con noi il senatore Carlo Giovanardi. Buonasera. Sì, buonasera a voi. Come da sta? Quanto tempo? Come bene, sta? Grazie. Come ha passato l'estate? In quale yacht è stato? In quale spiaggia favolosa è stato? In quale resort milionario? Allora, Serra Mazzone, Appennino Modenese, 850 metri. Sì. Sono stato benissimo. In una locanda, dove state? No, a casa mia. A casa sua. Della famiglia con... Beh, braccino corto, Giovanardi. Braccino corto. Una popolare, clima ideale, 850 metri. Passeggiate favolose. Beh, la invidio quasi un po', lo sai. La invidio un po' queste vacanze, come dire, no? Come le possiamo definire? Vacanze austere, sì, austere, direi anche molto intime, no? Sottotono, understatement. Sottotono, sì. Chiamiamolo vacanze. Vacanze, vabbè, quello è banale chiamarle vacanze, senatore Giovanardi. È tornato carico dalle vacanze oppure no? Beh, intanto bagnato, perché a Modena, da dove parlo, sta piovendo. E vabbè. Domattina sono a Roma e, bene. E si ricomincia. Le è arrivata la testa? Volevo salutarla, Giovanardi, sono Parenzo. Le è arrivata la tessera? Le ho mandato, le ho fatto mandare la tessera di Nessuno Tocchi Caino. Lei è arrivata? No, per la verità no, forse no. La troverò a Roma. Non c'è pace senza giustizia? Ma perché gli devo mandare la tessera? Però io sono anche dell'idea, per il diritto alla dolce ma morte, è una vecchia battuta che di preoccuparsi di Caino, ma anche di Abele. Beh, quello sì. Di ambedue. Sì, certo, quello, però, quello è normale. Scusi, senatore Giovanardi, lei è alla Camera dal 90, dal lontano 92 ormai, eh? Ah, sì. Sì. Sono alla Camera, in Parlamento, diciamo, perché Camera, poi Senato, eccetera. Sì. Sono 20 anni. Ecco, siccome si avvicinano le elezioni politiche, diciamo, qualcuno vuole, c'è chi vuole rottamare i dirigenti del PD, c'è chi vuole rottamare anche quelli del PDL, la Santanchè lo ha detto chiaramente, bisognerebbe far fuori molta gente che ormai da 20-30 anni è in Parlamento. Ecco, non le sembra anche lei un po' troppo dopo 20 anni? Cioè, lei nel 2013... No, la mia opinione è che al mondo... Tutti in ogni tipo di professione e di attività, compresa quella giornalistica, dove c'è Lorenzo Biagi, è diverso però. No, io me la sono guadagnata. Io sono stato eletto consigliere comunale con la preferenza, consigliere regionale con la preferenza, Vabbè. Parlamentare con la preferenza unica a Modena, cioè la città più comunista. Nel 92, nel 92. Sì, esattamente, in una posizione di minoranza e di opposizione. Mm-hmm. Quindi quando dicono quelli della Seconda Repubblica, i cooptati, quelli che gli hanno regalato il Parlamento dei nominati, non guardino me perché... Vabbè, adesso è stato nominato pure lei, nel 2008 e nel 2006 è stato nominato pure lei. Sì, però io c'ero già in Parlamento. Però è stato nominato pure lei. Arrivato, no, ma per dire che è una cosa ha un vissuto po' anche le preferenze, d'accordo. Però no, io voglio, dopo 20 anni, dopo 20 anni, io dico dopo 20 anni, non sarebbe il caso di dire basta? A tutte le attività, le professioni, c'è uno più bravo di Parenzo e di Cruciani, deve andare al loro posto a fare la zanzara. C'è uno più bravo, era più bravo di Bocca, di Montanelli, di Biagi, che fino a 86 anni sono stati. Cioè lei mi sta dicendo che lei vuole stare in politica anche fino a 86 anni, se fosse. No, io dico che è giusto che i lettori, gli elettori, i clienti, cioè quelli scelgano, che, dunque lei è d'accordo con le preferenze? Scelgono, certo, io ho fatto, scusi, per la verità nel 92-94 capisco che è un po' lontano, ma se andate a vedere le polemiche furibonde mie contro la Confindustria, l'Azione Cattolica, pure la Confcommercio e tutti i comitati di segno hanno abrogato le preferenze. Ah, lei era contro quel referendum, certo. E io che ce ne ho fa? Se scusi Giovanardi, però la domanda è questa, lei si vuole ricandidare nel 2013, sì o no? Io voglio prima capire che cosa succede. Vabbè, ho capito, questa è una domanda, la domanda è diretta. Non so neanche, come nessuno sa, come nessuno che sa, legge elettorale ci sarà, d'accordo. Perfetto. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via si svegliano per me. Eccoci qui, la zanzara alle 20 in punto, 800 24 00 24. Beh, che puntata, caro Parenzo. Abbiamo avuto, il signor Fede un po' abbacchiato, devo dire, dopo queste notizie che sono uscite qui dalla zanzara, di 20.000 euro al mese, minacce ricevute, eccetera eccetera. Ci siamo riconciliati, diciamo, no, con Emilio Fede. Sì, mi sembrava più sereno, più tranquillo. Sì, sempre un po' abbattuto perché insomma ha pure i suoi anni, bisogna dirlo. Abbiamo con noi adesso Carlo Giovanardi, senatore del PDL, che si trova a Modena e che domani ricomincerà la sua avventura in Parlamento per quest'ultimo scorcio di legislatura. Però Giovanardi, un grande lei... fautore della divisione tra Stato e Chiesa, uno dei più grandi sostenitori ma non è vero. Cioè, sì. In ogni caso io vorrei chiedere a Giovanardi, però non mi può rispondere Giovanardi, io lo capisco, dipende dalla legge elettorale, però uno l'intenzione ce l'ha, io dopo 20 anni voglio continuare a stare in, mi piacerebbe restare in Parlamento. Io rispondo esattamente quello che penso. Innanzitutto che rifiuto di farmi pigliare come per i fondelli. In che può senso, essere preso, scusi, per i fondelli come gli italiani? Perché? Ai quali viene raccontato ogni 4 anni che il problema del peso si risolve con una nuova legge elettorale, inventandosi questa roba dei nominati. Informo chi ci sta ascoltando che anche in caso di riforma della legge elettorale e con l'immissione della preferenza, l'elettore darà la preferenza a quelli che i partiti mettono in lista. Vabbè, se non li mettono in lista non può dare la preferenza. Ho capito, ma è diversa la cosa, scusi, no? Io non sono un fautore delle preferenze. Le elezioni europee pensi alle europee quando le liste sono state precostituite, giusto? Ho capito, però poi l'elettore deve mettere, l'elettore deve mettere la X, scusi, è diverso, in quel caso ma non mette nessuna X, infatti, o nessun nome, o nessun nome. Come dimostra la Lega prima e Grillo adesso, se l'elettore mette la X per esempio su Grillo, può darsi che Grillo faccia 200 deputati, sì. E non è che qualcuno di Grillo, come in tutta Europa, presenta le sue liste, perché in tutti i paesi europei sì. Non c'è la preferenza. Ma ci sono i partiti democratici, attenzione, dov'è il nostro problema drammatico? Ma da che ragionamento è? No, però scusi, lei... spariti, i partiti, sì. È sparita la selezione di quelli che vanno in lista democratica. Quindi vabbè. Quella della lista, della legge elettorale. Cioè, io non ho capito se lei è a favore della lista, io non ho capito se lei è a favore della lista bloccata oppure no. Io sono a favore no. Della preferenza, ma informo che poiché i partiti in Italia oggi sono ridotti a nomi, Casini è l'UDC, Casini, Pier Ferdinando, sì. Di Pietro è il capo del suo partito, vabbè, Grillo è il capo del suo, Fine è il capo ma del c'è suo, sempre un capo. Qualunque legge elettorale, non essendoci democrazia interna, Il problema è che il capo fa la lista. Cioè lei è a favore, è a favore delle preferenze, però anche delle liste bloccate. Io sono a favore pazzesca. Della preferenza, però segnalo che poiché le liste le fanno i capi, non è detto che uno... possa prendere le preferenze se non va in lista. Ma certo, uno diciamo mette problema, scusi un attimo Giovanardi, uno non è che è autolesionista, evidentemente metterà in lista quello che è capace di prendere più preferenze in teoria, altrimenti sarebbe teoria, masochista. Ma questo, infatti questa è la teoria, la pratica è molto diversa. Senta, io però ho fatto una domanda diretta, senatore Giovanardi, lei è sempre molto franco, molto sincero. Io voglio capire se lei dopo 20 anni in Parlamento, dal 92 al 2012, nel 2013 ha ancora voglia di fare il parlamentare? Sì, ho voglia di continuare a fare politica. Lei che farebbe se no? Altrimenti che farebbe nella vita? Niente. Io dico, nella vita c'ho un milione di cose da fare. No, ma di mestiere. Di mestiere. Da una professione da rinverdire, di hobby da coltivare, per esempio la storia postale e la filateria, che è sempre stata la mia attività principale. La filateria. Alla quale voglio dedicare più tempo, sì. Storia postale e filatelia. Storia postale e filatelia. Una passione che ho cercato di trasmettere anche a Berlusconi senza successo, perché gli ho consigliato 2 anni fa di dedicarsi alla collezione di come la storia Purtroppo non l'ho convinto, c'era anche Gianni Letta, provato sinceramente. Cioè che come le ha parlato? Gli ho detto, guarda, se tu ti dedichi come faccio io alla filatelia e alla storia postale, avrai delle grandi soddisfazioni, adesso come fanno milioni di appassionati, e correrai anche meno rischi rispetto ad altre attività che sono più a rischio della filatelia e della storia postale. Ma veramente ha consigliato questa a Berlusconi? Certo, prima della conferenza nazionale sulla famiglia. Guarda che Roosevelt era un grande collezionista, magari aveva anche altri interessi. Andreotti Ce l'hai allo stesso occhi di Roosevelt? Purtroppo anche Sarkozy è un grande collezionista, ma non gli è nata molto di francobolli, di francobolli. Io voglio dire una cosa, lei ha consigliato la storia postale, no, non posso sentirlo. Beh, perché postale. Qual è il problema? Ognuno c'ha la sua storia, è una cosa assolutamente. Sì, storia postale. Ognuno ha i suoi hobby. Attraverso la quale si ricostruisce la storia. Certo, ognuno ha i suoi hobby. Però no, la cosa... ho capito, ma la storia postale no. Però io sono curioso di cosa. Lei ha consigliato quello davanti a Gianni Letta, a Berlusconi, meglio che ti dedichi ai francobolli piuttosto che alle donne, diciamo la verità. Questo le ha detto a Berlusconi, o no? Ho detto di diversificare gli hobby. Diversificare gli hobby, mi sa che Berlusconi proprio, no, nisba, non c'ha... Non c'ha. È entrato da una parte e uscito dall'altra. E questo è un grande rimpianto. Sai, Giuseppe, sai qual è la coincidenza? Voglio dirlo anche all'amico Giovanardi. Sì, qual è la coincidenza? Che sono salito adesso su un taxi che è Modena 5, vero? Bellissimo. Allora, siccome Modena 5 e il tassi e Giovanardi è di Modena, una coincidenza meravigliosa. Secondo me è stupendo da segnalare questo, no? Giovanardi, lei lo conosce Giovanardi? L'ex ministro, certo. Siccome lei è Modena, ma veramente non è mai Modena... stato ministro, comunque, vabbè. Siccome è poco male. È una... scusi, è ministro? Non avrò lasciato segno, però per 5 anni il ministro l'ho fatto. Che cos'era? Ministro? I rapporti col Parlamento? I rapporti col Parlamento. Erano buoni i rapporti, no? È vero, questo vero. Una specie di colpo basso, dice, perché no, non me lo ricordavo, Giovanardi, oggettivamente non ricordava l'autista di Modena la situazione. No, non me lo ricordavo mica perché è stato forte quando faceva. Ah no, lei potrà riconoscere che in generale, mica dico lei, in generale il ministro per i rapporti con il Parlamento non è proprio uno dei più visibili, insomma, ecco. I radicali se lo ricordano bene, perché la legge per esempio sulla droga, la Fini Giovanardi, la legge sull'immigrazione, sì, o il servizio civile nazionale, o l'orientamento rispetto alla legge di cui si è discusso tante volte in questa settimana, a favore e contro, quella della fecondazione medicalmente assistita, sono tutte cose che io ho contribuito. La proibizione del fumo nei bar e nei ristoranti, pensi voi, abbiamo con una battaglia furibonda ottenuto che in Italia si possa andare a mangiare nei bar e nei ristoranti, nei locali pubblici, senza che la gente ti ammazzi col fumo. Questo è buono, questa è stata questa io è stata... non mi vanterei fossi lei. Perché comunque, no? Dici, perché no? Mi vanti, dici, che hai fatto di buono nella vita? Che ha fatto? Finalmente ho impedito che quando andavo a casa la sera, dopo essere stato al ristorante o al bar o in una riunione, dovevo appendere gli abiti fuori dalla porta perché sapevo di nicotina, di fumo, di sigaro, eccetera, eccetera. È l'unica cosa buona che ha fatto il governo Berlusconi, diciamo, in tanti anni di governo. Mi dica la verità, Giovanardi, l'unica cosa buona che ha fatto. Guarda, noi avevamo fatto una bellissima riforma costituzionale che aveva già battuto. Avevate fatto. E poi alla fine se poi il popolo italiano con il referendum va dietro a Oscar Luigi Scalfaro e abroga la riforma e la riduzione dei parlamentari, si pigliano le monetine e se le buttino in faccia. Però scusi, e quando dico ma voi buttatevi scusi Giovanardi, però voi io dico come buttatevi le monetine in faccia, scusi. Scusi, quando dicono ma voi politici non volete ridurre il numero dei parlamentari, noi l'avevamo già fatto. Sì, vabbè, una vecchia storia, non è che c'era solo elettorale, era diventata legge. Ma non c'era solo quello, Giovanardi, ma non è che gli elettori sono meglio, infatti c'era l'interesse nazionale, c'era un riequilibrio rispetto allo strapotere. Vabbè, adesso non parliamo di questo, che appartiene al passato. Ma non è che gli elettori sono buoni quando vi votano e sono cattivi quando bocciano sonoramente. Sì. Però scusi un attimo, è interessante. No, io la riduzione dei parlamentari l'ho fatta. Però voglio tornare ai francobolli. Voglio tornare improvvisamente ai francobolli. Ma Berlusconi non meriterebbe un francobollo? Meglio le farfalle. No, questo è interessante, perché secondo me sì. Berlusconi meriterebbe un francobollo, secondo lei? Non può, perché nella legislazione italiana le persone viventi non possono essere figiate sul francobollo. Però voglio dire, una volta, quando sarà? Tra 100 anni oggettivamente nella storia dell'Italia del fine 900 inizio 2000 della vita politica, Berlusconi sarà come Giolitti, come Mussolini, come De Gasperi, come Berlusconi, personaggi che nel bene o nel male ha fatto la storia d'Italia. E dunque meriterebbe un francobollo una volta che tra 100 ora, diversamente da Mussolini, che francobollo l'ha avuto in vita, ma non da morto per evidenti ragioni di dittatura, come sono stati ricordati Nenni, è stato ricordato De Gasperi, sono stati ricordati esponenti del Togliatti, insomma, tanti esponenti nei francobolli italiani, non vedo niente di... Se in futuro si è ricordato anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, non ci vedo proprio niente di scandaloso. Allora, è la storia d'Italia, non c'è dubbio. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito. Parenzo, hai qualcosa in contrario nei confronti di un francobollo per Berlusconi? Tu, una volta che tra 30 anni, 40 anni sarà passata miglior vita? Hai qualcosa in contrario? No, perché vorrei anche dedicare un francobollo alla signora Rubi Luana. A Eluana Englaro, vorrei un francobollo per Luca Coscioni. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Certo, ma fai sempre i soliti discorsi radicali, che palle. Francobollo. Comunque c'era la domanda che il tassista di Modena 5 voleva fare all'ex ministro. Tu togli la parola ai cittadini, assumiti la responsabilità. E vabbè, quindi... fai questa domanda, avanti, su. Prego, vuole fare la domanda a Giovanardi, lei, vero? No. No, non gliene frega nulla. Benissimo. Pubblicità, torniamo subito dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità c'è un film a Venezia che è stato proiettato nei giorni scorsi, in cui c'era una signora, un'attrice che faceva sesso col crocifisso, caro Parenzo. Sesso col crocifisso. Sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Beh, invece siamo qui, non siamo lontani, nessuno ci tiene lontani al momento, nemmeno Emilio Fede, con cui ci siamo riconciliati, caro Parenzo. 20:11, la zanzara vive e lotta insieme a voi. Vado a prendere la Pravda. Sei ancora qua, Simo? Eh sì, siamo ancora qua, caro Dell'Utri, siamo ancora qui. Per tradurlo al siciliano, noi siamo ancora qui. Noi siamo ancora qui. Luca da Vicenza, c'è anche Carlo Giovanardi con noi. Voglio sentire qualche ascoltatore. Luca, dica. Luca? Pronto. Che succede, Luca? Eccolo qua. Dopo 40 minuti di attesa. Lo so, ci perdono. Avevo detto alla sua gentile signorina due argomenti. Primo, chi è la gentile fondamenti signorina? C'è che interviene? Sì, è Parenzo che non ha capito ancora dopo 3 anni come funziona. Due argomenti. Primo, fondamenti biblici per la biblici. Coppia sì. omosessuale o no. Sì. Non ci sono fondamenti biblici per dire che insomma. Una coppia omosessuale non possa essere benedetta a Dio. Secondo, che è quello che mi interessa di più, sì. ma magari della prima cosa ne parliamo un'altra volta con sì. Giovanardi. Sì, no, la prima cosa è sull'adozione. Sull'adozione, allora, sì. velocemente. Sì. Ci sono 100 bambini da adottare. Ci sono 100 famiglie eterosessuali sì. cattoliche sposate sì. in chiesa che fanno tutte le loro pratiche per avere l'adozione. Benissimo, 100 bambini per 100 famiglie. Il problema è che non ci sono 100 bambini per 100 famiglie, ci sono 100.000 bambini, 1 milione di bambini. Quindi? Gli altri bambini che non vengono adottati dalle coppie eterosessuali, cosa fanno? Bene. Dunque? L'esperienza nostra di famiglia... ci vuole la punturina, eh? Sì. Pronto? Sì. Sì, sì. È che una bambina di Addis Abeba, sì. a 10 anni, viene mandata via dalla filantrofia, sì. va a fare la prostituta, sì. prende l'AIDS, sì. e muore sì. tra gli 11 e 11 anni e mezzo. Ma cosa dice 12. Questo, questo che vuol dire dunque? La conseguenza questo vuol dire che la cosa importante è che ci siano vedovi, vedove, coppie gay, single maschi, single femmine, sì. coppie gay maschi, coppie tutti gay possono femmine. Adottare tutti, questa è la cosa. No, basta che passino tutte le cose che abbiamo fatto noi, perché se no l'alternativa è la morte. E che quei bambini lì che avrebbero e avranno dei problemi nei momenti in cui invece di avere un maschio coi baffi e un papà coi baffi e una mamma con le poppe, avranno due genitori con due poppe l'uno o sì. due birilli l'uno sì. oppure solo un vedovo, sì. quei bambini lì fanno una fine orrenda. Sì. Non bene. È che muoiono. No, ma ho capito benissimo. Caro Luca, allora dico e finisco. No, ma finisco, ma non è che stiamo al comizio dell'associazione pro adozione. Va benissimo proteggere la vita quando la vita dell'embrione sì. sta e non si vede sì. sulla capocchia. Sì, ma qui non è il coso, scusi, caro Luca. Va benissimo, ma questi bambini crepano. Allora vorrei dire al signor Giovanardi. Ma non c'è bisogno che lo dica Giovanardi. Voglio dire che va benissimo tutto, ma questa ostinazione sì. a difendere una cosa ridicola sì. crepare, cioè uccide centinaia di migliaia di bambini. Bene. Punto. Punto. Bene, Luca. Ma dove è uscito fuori lei, signor Luca? Io sono uscito fuori dal fatto che ho visto, sì. adottando una bambina, come crepano i bambini che non vengono adottati. Bravo, bravo. Vabbè. Però. Fine del palo. Bene, grazie. Bravo. Grazie, Luca. Su questo palo, come si dice, non c'è una bandiera. Bene. Arrivederci. Senatore Giovanardi, che succede a Venezia? Domani o dopodomani verrà proiettata... No, ma scusi, non voglio rispondere solo a Luca, se mi scrive, perché purtroppo per ogni bambino da adottare nel mondo ci sono 100, 200, 300, 400 coppie in fila sì. che regolare, sposate, eccetera, eccetera, perché il numero di coppie che vuole adottare è infinitamente superiore al numero dei bambini. Quindi esattamente il rovescio di quello che dice il signor Luca, compreso i bambini italiani, dove ci sono migliaia e migliaia di coppie italiane che vorrebbero adottare e non ci sono bambini adottabili in Italia. Poi in Burkina Faso, in Cambogia, a Mosca, dove sono stato, avendo la Presidente della Commissione a firmare gli accordi, purtroppo i paesi esteri sono sempre più selettivi nel concedere i bambini in adozione. Quindi quando lui parla dei gay o delle lesbiche o dei single, non tiene conto che ci sono già migliaia e migliaia di coppie italiane che sanno tutti in crisi, che non riescono ad adottare. Senta, Giovanardi, a proposito, io voglio chiedere una cosa, ma questo Crocetta con cui si allea l'UDC in Sicilia, che cos'è? Un'unione contro natura, questa tra PD e UDC in Sicilia con Crocetta? Guardi, questo non lo so che cosa sia, non conosco Crocetta, ho visto le sue dichiarazioni. Dice che vuole rinunciare al sesso, la castità, poi dice però, che... Io sono dell'idea, vede anche per quelle cose che diceva. Ma lei diventerebbe casto? Diventerebbe casto lei? Rinuncerebbe alla casto? Ma ma questo è il problema della follia che secondo me travolge il nostro paese oggi. Quando parlavate prima di Venezia, sì, l'episodio del film, io pensavo a un imam o uno dei milioni di musulmani che ci sono in Italia, per i quali la religione è una cosa seria, sì, cioè, che cosa possono pensare di una civiltà, di un paese, di una cultura che utilizza i film per dissacrare quello che per loro, sì, è la cosa più importante al mondo comunque. Ma è un film, è un film. No, capisco che è un film, però il distacco drammatico che ci sarà tra queste culture totalitarie che sono fra di noi e che ci guardano e ci giudicano come qualcosa di assolutamente da spazzare via, come una cosa che non rispetta neanche i valori che dovrebbero essere quelli più sacri. Cioè, lei sta dicendo che è meglio l'Islam addirittura, meglio l'Islam di questa civiltà, no, qui, mi sembra l'Islam strano. L'Islam, quando vede come noi, o una parte della nostra cultura, utilizza o dissacra simboli che per loro sono sacri. Dunque, lei cosa farebbe? No? Non farebbe diffondere il film nelle sale? Un po' di equilibrio fra i fondamentalisti islamici che tagliano la testa e la cultura occidentale che dissacra anche le cose più sacre alle persone, come se uno dissacrasse il padre o la madre o ci un vuole padre della resistenza. Ci vuole una via di mezzo. Le persone che hanno un ruolo, ci vorrebbe un po' di equilibrio e di misura. Non offendere i sentimenti e le ma il le film di Bellocchio, il film di Bellocchio, lasciamo perdere adesso il film di Bellocchio, scusi, il film quello col crocifisso deve andare nelle sale, può andare nelle sale secondo lei? A parte che io ne faccio una questione, non ne faccio, dato di televisione c'era di tutto, ne faccio una questione di una espressione davanti al mondo e davanti anche a culture diverse che sono fra di noi e che diventeranno egemoni, perché rispetto a quello che il non rispetto, perché non è il non rispetto per la persona, dice il crocifisso per uno non vale niente. Ho capito, ma che vogliamo fare? Scusi, non doveva essere invitato alla... che facciamo? Non facciamo niente, la testa sconsolatamente la muoviamo da destra a sinistra dicendo prendiamo atto che evidentemente siamo arrivati al punto che una volta c'era il grande cinema, il grande, ormai i film che vengono presentati hanno come provata quella di fare il sesso col crocifisso. Sarà una gran trovata. A me sembra, scusi, che faremo con una stronzata. Eccoci qui 800 24 00 24, la Zanzara, ultimi secondi con Carlo Giovanardi, poi ascoltatori. Parenzo, no, cosa vuoi chiedere? Io volevo solo dire questo a Giovanardi: capisco che si possa essere arrabbiato per alcune scene di un film che io peraltro non ho visto, dico solo che l'Occidente, a differenza degli altri paesi, ha questo, cioè ha questa straordinaria libertà, questa straordinaria libertà anche creativa che magari può offendere la sensibilità di qualcuno, mi dispiace, ma è l'Occidente, it's democracy minister, it's democracy minister. Pronto? Sono assolutamente convinto delle qualità. Scusi, il film di Bellocchio su Loana Englare, un'offesa pure quello ai principi della religione. Totalitari, però sono anche dell'idea che se uno mi viene a dire a me figlio di puttana o a voi o a offendere mio padre, mia madre o le cose in cui credo, ci sia un limite per il quale non si è tenuto a farlo, perché mi deve rispettare come io rispetto lui. Ho capito, dunque. Poi se si dice che non c'è più nessun limite, che ognuno può fare quello che vuole. Ma in una rappresentazione liberale, che la mia libertà finisce quando incomincia a ledere la tua libertà, sì, qui è un discorso che ci porta molto lontano. Comunque, insomma, questo può andare tranquillamente nelle sale cinematografiche. Hanno scatenato un pandemonio anche su film di Bellocchio che tratta un tema serissimo, quale quello della dolce morte e dell'interruzione dei farmaci. Guardi, anche, siamo appena reduci da due giorni che mi hanno spiegato che il cardinale Martini non era cattolico, non faceva parte della Chiesa Cattolica, che la pensava come il padre dell'Englaro. Cioè, siamo davanti a delle mistificazioni talmente gigantesche, talmente offensive, che sono dovuto stare a spiegare mezz'ora a uno del manifesto l'altro giorno che la Chiesa si è impensata contro l'accanimento terapeutico. E sì, è Martini, vero, questo che è vero. Morto come un cattolico, mi voleva far dire che aveva fatto l'eutanasia. Cioè, adesso non scherziamo, non esageriamo, perché poi quando si tratta di cose serie, bisogna avere anche onestà intellettuale di non mistificare tutto. Va bene, Giovanardi, che fosse cattolico. Lei non mi ha detto se si vuole candidare o no, se vuole tornare in Parlamento o no, lei non me l'ha voluto dire. Io le ho già detto che quando saprò qual è la legge elettorale... Ma no, ho capito, ma lei dentro di sé lo vuole continuare a fare politica, su. Io sono molto preoccupato, perché secondo me il paese sta andando al disastro economico. Quello siamo preoccupati. Economico. Vabbè, questo è un altro discorso, però voglio... Credo che andando così... le cose peggioreranno. Io sono anche molto critico sul mio appoggio al governo Monti. Sì, vabbè, ma questo con la fiducia. Vabbè, ma questo però qua sono anche un realista. Sì. E io sono qui in una realtà che era ricca e che è la disperazione. Va bene, non è mica colpa di Monti, non sarà mica colpa di Monti adesso. No, che colpa, ho detto che continuando così con le ricette depressive, sì, io voglio capire una cosa, Giovanardi, nel 2013 mi rinuncio alla candidatura, smetto con la politica. Che ne so, una cosa. Io ho detto né una cosa né l'altra. Io ho detto che voglio decidere quando avrò capito che cosa succede. Vabbè, comunque dopo 20 anni, secondo me, Giovanardi, secondo me uno dopo 20 anni dovrebbe pure smettere, cioè. Ma guardi, io l'ho detto una volta a Rosi Bindi nel 94 che faceva questo ragionamento. Che molto bene. Allora, se decidiamo che Napolitano, D'Alema, Casini, Di Pietro, cioè tutti quelli che hanno fatto politica, decidono loro autonomamente di andare via, a me sembra una roba che non fa l'Italia, perché poi io ho visto nel 94 che cosa è successo, quando sono andati via quelli che avrebbero dovuto essere, e che cosa è successo. Cioè, sono meglio io quelli... ho l'impressione che comunque ci sia, non ci sia Giovanardi, con i grillini che arrivano, la terza repubblica sarà molto molto molto peggio della prima e della seconda, cioè meglio... facciamo sempre la gara al peggio, sì, sì. E arriviamo non so a che conclusione. Cioè, meglio quelli della prima repubblica che grillini, dice lei. Sì, a me stanno fanno una di fascistelli, perché questa roba è nata negli anni 20, c'era sempre le stesse cose, gli stessi linguaggi, le stesse offese fatte con lo stampino. Luca ha ragione, Bersani. Allora, invece, i grandi paesi democratici tipo gli Stati Uniti. Ma chi sono i fascistelli? Scusi, i fascistelli chi sono? I genitori degli Stati Uniti o dei paesi degli Stati Uniti? Se sono bravi, stanno lì. Ma chi sono i fascistelli? Chi sono i fascistelli? I fascistelli sono quelli che usano le stesse parole, le stesse frasi. I grillini, dice lei. Per dileggiare il Parlamento e le istituzioni. Luca, ha ragione Bersani. Ma quando gli stessi argomenti. Benissimo, ha ragione Bersani quando dà il fascista Grillo. Quando usa gli stessi argomenti dei fascisti, sì. Dunque, perché in quel caso ha ragione Bersani quando ha detto zombie, quando Grillo disse zombie. No, ha ragione nel senso che Bersani fa parte dell'altra tradizione italiana, quella del comunismo, cioè di un paese dove quasi la metà della popolazione non ha mai capito né condiviso il metodo democratico. L'Italia è il paese in cui un terzo degli elettori, fino alla caduta del muro di Berlino, votavano comunista. Però ho capito, ma io lasciamo perdere il passato. Quando Bersani dà del fascista Grillo, lei ha parlato di fascistelli, dei grillini come dei fascistelli. Quando Grillo, che è un signore che ha una condanna passata in giudicato per omicidio colposo, avendo accoppato 3 persone... Vabbè, Giovanardi, su... No, ma batti pazienza, quando vuole quando sale in cattedra e vuole fare i processi pubblici nelle piazze, sì. Io ho detto più volte, faccio come padre Cristoforo, mi promisi sposi, che avendo ammazzato uno, dopo si è fatto frate, è andato a chiedere perdono ai parenti della vittima e per tutta la vita è spiato il suo peccato. Io uno che con un fuoristrada che va in giro per la montagna e accoppa quelli che c'è in macchina con lui e viene condannato per omicidio colposo e che sale in cattedra e vuole processare a me, io non so se lo chiamo fascista. Come lo chiama? Come lo chiama? È inqualificabile il suo atteggiamento. Vabbè, come lo chiama se non lo chiama fascista? È un atteggiamento di un violento che avendo causato lui, riconosciuto per sentenza la morte di altre persone, che dovrebbe fare? Invece di starsene tranquillo e buono, a espiare la pena, un linguaggio e una violenza dicendo a me, che lui vuole processare me. Sì, la vuole processare. Ma si processa, lui l'ha già processato. Perché io posso avere fatto degli errori, posso aver sbagliato, sbaglierò, ho le mie idee, le difendo. Però non ha ammazzato? Non solo non ha ammazzato nessuno, ma ha colpato. E quindi non voglio essere processato sulle piazze linciate, non voglio che un signore come Grillo venga a Modena come è venuto o in altre città a aizzare la gente al linciaggio. Va bene, Giovanni. Lui ha già dato. Grazie. Come ha già dato? Nel senso, ha già dato da quel punto di vista, dice lei? No, ha già dato nel senso che lui nella sua vita ha avuto occasioni per le quali io mi sono vicinissimo, può capitare nella vita alle persone di sbagliare. Padre Cristoforo, io voglio un grandissimo bene come tutti quelli che hanno sbagliato, ma quando uno nella vita ha avuto disavventure di questo genere ed è lui che vuole linciare gli altri, la cosa, se permette, mi dà un grande fastidio, un tantinello fastidio, rigetto con segno. Grazie Giovanardi, buona serata. Prego. 20:27, Fausto da Livorno, buonasera. Ciao Cruciani. Dica. Niente, guardi, mi veniva da ridere a sentire il ministro Giovanardi. è una politica vecchia ormai. E niente, semplicemente, brevemente, volevo spezzare una lancia a favore di Beppe Grillo e non del movimento, di Beppe Grillo come persona. Sì. In quanto è chiaro che ovviamente, per forza di cose, è una persona che non nasce come politico. Sì, però uno quando vuole fare politica a un certo punto entra in alcuni meccanismi che sono propri delle democrazie occidentali, meccanismi ineludibili, non è che uno può fare il guru per sempre, poi a un certo punto no, tutti i nodi vengono al pettine, è vero che uno può concedere le interviste a chi vuole, può non concederle, può usare il linguaggio che vuole, però non si deve stupire se, quando qualcuno lo attacca, cioè, anche con lo stesso linguaggio, di che parliamo, su? Sicuramente, no, ma infatti sicuramente... No, adesso fa la vittima, Grillo, fa la vittima. Ecco, infatti quello che sbaglia, quello sicuramente un errore da parte sua, perché secondo me dovrebbe... Pensa che ci sia il grande complotto contro di lui. Certo, no. gira un video del 2006 rilanciato dalle grandi testate, sicuramente le grandi testate giornalistiche, Repubblica e quelle della serie, altri non amano Grillo, no? Gira un filmato da qualche ora per una cosa che Grillo ha detto nel 2006 durante uno spettacolo. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia la cruda verità. Le zanzare di casa mia. Eccoci qui, 800 24 00 24, la zanzara, caro Parenzo, ci sei ancora? Sì. Ma certo, perché pensi che non ci sia? Che ne so, penso sempre che scappi, penso sempre che stai scappando. Non potrei mai abbandonarti, a meno che tu non abbandoni me. No, non ti abbandonerò, non ti abbandonerò. Nel baratro della solitudine. Ma non c'è nessuno da mandare a fanculo, che sono uno Sgarbi da mandare a quel paese stasera? Beh, Sgarbi per la cosa di Marra, potremmo anche chiamarlo. Così Francesco, mi ricarico un attimo. Francesco un attimo da Milano, adesso chiamiamolo, va, Francesco da Milano. Sì, buonasera, scusate, ma mi sono fatto una risata sul cercare qualcuno da mandare a fanculo da parte di Parenzo. Ah, scusa, mi è venuto un po' dal cuore, pensavo non fossimo più in onda. Se non c'è battaglia, no, se non c'è battaglia non ti diverti, Parenzo. Esatto, allora facciamo battaglia a tutti quegli infami che mandano Twitter a signor Fede senza alcun motivo, perché secondo me chi semina raccoglie, quindi la vita è fatta di azioni. Sono invidiosi del fatto che Emilio Fede guadagna 20.000 euro al mese. Perché questi qui che prendono e dico 20.000 euro al mese, io sono senza lavoro, e allora scusate, permettetemi, ma brutto coglione, ma invece di stare lì a scrivere su Twitter e a sperare che lo leggano, e a stare lì tutto il pomeriggio sentendo Radio 24 e sperando che lo leggano, ma vai a cercarti un lavoro, perdi tempo a cercarti un lavoro, semini e poi raccogli, la vita è fatta di azioni e di conseguenze. L'azione di Fede è stata quella di essersi rotto il culo per una vita, la conseguenza è che adesso gli danno uno stipendio. Beh, che si è aspetta, adesso i 20.000 euro al mese che gli danno per il contratto di collaborazione sarà frutto anche di altre cose, di accordi tra lui e Mediaset. Sì, il problema non è quello, merita o non merita, non me ne frega niente, non sono soldi pubblici, sono soldi di un'azienda privata che vengono dati a un privato cittadino, non me ne importa nulla. Poi lui ha sbagliato, secondo me, a dire certe cose, 20.000 euro, forse sono pochi, io devo pagare questo, devo pagare quest'altro. Il problema non è quello, perché lo insultate? Perché gli mandate tweet di insulti? Perché non hanno niente da fare, perché invece di guardare il proprio orto guardano quello degli altri. Semplicemente per quello, il proprio orto non l'hanno seminato e quindi guardano gli ortaggi degli altri. Beppe Grillo sull'immigrazione, là, sugli immigrati, la polizia, gli schiaffetti, eccetera. Alcuni ci dicono mandatelo tutto, non solo il montaggio del Corriere. Sì, vabbè, mandiamolo tutto, allora perdiamo tutta la notte. Mandiamo un pezzo che è quello significativo. Se i marocchini vengono qua a rompere i coglioni, a ubriacarsi, a rompere vetrine, o vengono qua e rispettano le regole, sono fuori dai coglioni, io sono esatto. Ma no, momento! Però. Vuoi dare una passatina a un marocchino che rompe i coglioni? Lo prendi, lo carichi in macchina, senza che ti veda nessuno, lo porti un po' in caserma e poi gli dai magari due schiaffetti, lo fanno, tanto lo... Ma in mezzo alla strada non è possibile! Oggi con un telefonino fanno succedere un casino, l'immagine di quel telefonino li è andata a un miliardo di musulmani! Sono coglioni! E li vedevano con telefonini! La li tumpera rin l'allera, la li tumpera rin l'allà. Quando fu là, laggiù vicino al porto, venne la nuova che il grillo era morto. La li tumpera rin l'allera, la li tumpera rin l'allà. La formicuzza dal grande dolore con le zampine. Eccoci qui. Si trafisse il cuore. La li tumpera rin l'allera, la li tumpera rin l'allà. Non è. Non è l'amico. È Vittorio? No, non è Vittorio, è Cristian Vieri. Vieri? Sì, Vieri. Ma cosa fa? Un ricordo di Martini? Un milione di euro di risarcimento dall'Inter per questa storia. Già, sì. Vediamo se risponde. Signor Vieri? Bobo, no? Sì. Sono Bobo. Sarà impegnato con la signorina. No, veramente si è lasciato da tempo con la signorina. No, non con la signora. Si è rimasto indietro. No, non so, non con qualche altra signorina, dici tu, può darsi, non lo so, alle 20:36. Beh, è legittimo, è mica un reato. No, non è un reato, assolutamente. Capo cannoniere, signor Bobo? Beh, è stato, forse. No, capito, non posso, ogni volta che sono capo cannoniere. Non lo so, perché tu non capisci un cazzo di queste cose, per cui però bisogna stare attenti. Signor Bobo, capo cannoniere? È un milione d'euro adesso ha preso, risarcimento civile, vabbè. Non risponde. Io comunque sono a casa e mi tengo uno spaghettino aglio e olio peperoncino. Bene, chi se ne frega. Cosimo da Taranto, buonasera. Da signor solo. Cosimo. Buonasera. E come mai da solo? Come mai da solo? Mandiamo amici miei, va? Mandiamo amici miei, ripescatemi amici miei. Cosimo da Taranto. Non essere selvaggio. Cosimo, dica. Non essere wild. Ecco, così diciamo in inglese, diciamo. Cosimo, wild. Dica. Wild, in inglese. Ti piace l'inglese, eh? Wild. E sì, ancora sì. Non hanno capito nessuno niente. Bravo. Che ci stanno portando al disastro economico. Economico, sì. Ma chi è questo? Cosimo perché da Taranto. Perché pensano sì. Gli italiani sì. Che ci sia una ripresa. Ma riprese sì. Non ce ne saranno. No, ci sarà certo. Solo mortificazione per gli italiani. Non eccolo, c'è dubbio. Invece, eccolo qua. Invece i politici mangeranno come porci a banchettare con i soldi nostri. E noi dubbio. Diventeremo sempre... Ma sì. Nella povertà massima. Assolutamente. Allora, è ora di andare tutti a Roma e spodestarli tutti. Facciamo sta punturina, no? Su, facciamola sta punturina, dai. Spodestarli come? Pronto? Ma spodestarli come, Cosimo? Spodestarli come, Cosimo? Perché stanno combinando un disastro. Sì. Iniziando da Monti a tutti quelli di destra e di sinistra, perché ci sono ancora coglioni che credono nei partiti. Va bene, Cosimo. Questo è il concetto. Facciamo una punturina, su, facciamo una punturina rapida. Cosimo mio, una bella mio. Punturina. Poi di quelle... voglio dire un'altra cosa. Sì, hanno fatto impestare l'Italia di cinesi. Sì, ma hanno fatto... stanno assorbendo ma... i nostri soldi. Ma hanno chi? E se li portano in Cina. Ma chi hanno? Chi ma hanno? Cosa vuol dire hanno fatto impestare? I politici li hanno fatti entrare. Hanno fatto entrare i politici. Cinesi avanti su. Non i politici cinesi, forse non mi sono spiegato. No, capito, i politici hanno fatto i entrare i politici italiani hanno fatto entrare in Italia troppi i cinesi. Ma dove stanno questi troppi cinesi? Dove stanno? È pieno. È pieno di cinesi. Roma, Milano, Padova, Taranto. Sì, pieno Napoli. Di cinesi. Pieno di cinesi. È pieno di cinesi. I cinesi sa cosa fanno? Cosa fanno? Prendono i nostri euro e se li portano in Cina. Sì, beh certo, diciamo che guadagnano e poi si portano i soldi in Cina, cioè non mi sembra una cosa così strana. Camminano con BMW, Audi, Mercedes. Ma io non l'ho visto. Gli italiani stanno morendo. E loro invece gli italiani dobbiamo andare a Roma a buttare giù tutti i politici, non crediamoli più. Vabbè, ma siamo sono famiglia. Una schiferia umana, schiferia il calco del nostro economia. Sì. Si è sfogato? O mi sbaglio, signor Cruciani? Si è sfogato bene? Beh, ancora no, perché c'è da tanto da dire. Sì, sentiamo. Tanto perché ci sono coglioni ancora che credono nei partiti, non destra c'è e dubbio. Sinistra. Se, tanto, perché sì. Vedono i ciucci che volano. Ma lei è una sorta di Beppe Grillo, come dire, in. No, Beppe Grillo è uno stronzo. Pure Grillo è uno stronzo. Sai perché? Parla e non fa mai niente. Invece, bisogna andare a Roma. Con i forconi, magari, no? Bravissima, pungerli tutti nel culo. Benissimo. Perché cosa? Se vogliono fare i politici sì. A 1200 euro sì. Senza le macchine blu, quelle gialle e quelle rosse. Sì. Mi spiego. Perché non mi ha fatto parlare con quel cesso di Giovanardi? Che quello c'ha la dolcezza calma. Nel parlare sì. E il fiele nel pensare. Il fiele nel pensare. Cosimo, se le faccio sentire Beppe Grillo, sarà difficile, avremo i nostri scilipoti. Sentiamo. Guardare e fare i guardoni nella politica non funziona più. Sarà dura, sarà durissima, per l'amor di Dio, non c'è niente di semplice sbaglieremo, ci saranno degli scirippotti anche da noi, l'animo umano non lo cambiamo, questo paese è un paese fallito, e allora poi andremo con un referendum a decidere se stare in Europa o non stare, se stare nell'euro o non stare nell'euro. Lo deciderà un referendum popolare e il popolo italiano ha bisogno di questi strumenti. Italiani! La ritum perarin lallera, la ritum perarin lalla. Quando fu là, laggiù vicino al porto, venne la nuova che il grillo era morto. La ritum perarin lallera, la ritum perarin lalla. La formicuzza dal grande dolore, con le zampine si trafisse il cuore. Diagnosi, la donna così tu non la reggi. No. Cura, scaricala. Ma come faccio? Te ne vai. Piano ma certo. Hai un soprabito? E su in camera. Lascialo stare. Sì, andiamo. Sì, sì, coraggio. Ma come l'affronto? Ma che te ne frega? Che le dico? Niente, te ne vai e non ti fai più vedere. Ma loro come fanno? Via, bella com'è, un altro vischero lo ritrova tu, subito. Non si fare perdere tempo. Ma io l'amo! Zitto, ti sente? Queste sono cose secondarie, senza importanza. Ma poi ti basta. Anch'io ho sofferto. Ho sofferto come un cane per quasi tre quarti d'ora. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto... Beh, una scena mitica, eh! Una scena mitica, questa di Amici Miei. Deve essere sempre una guida per chi soffre in amore. Una guida, una guida. Ma no, ma io, film, ma io non ho fatto, non ho fatto nessun riferimento. Ho detto per chi, per quei tanti ascoltatori della Zanzara che soffrono di amore. Per quei tanti ascoltatori della Zanzara. Poi anche forse qualcuno che non è solo ascoltatore, però non dico niente. No, no, volevo dire semplicemente che ho letto un romanzo bellissimo proprio qualche giorno fa, sì, del grandissimo Lucarelli. Allora, è uno degli scrittori, secondo me, anche dal punto di vista proprio della letteratura, della freschezza della letteratura, certo. È uno degli scrittori grandi che possa esistere. Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. No? Bene, Vincenzo della Ma perché non lo invitiamo una volta a parlare in siciliano, il grande Luca? Cioè, è un grande scrittore. Sì, sì, lo inviteremo. Vincenzo dalla provincia di Mantova, buonasera. Buonasera, dica. Buonasera. Sì, ho un po' di ritorno, ma spero si senta bene. Vade. Ok, sì. Vade retro, vade retro. Vade retro, telefoni che non funzionano, vade retro. Vabbè, purtroppo la tecnologia. Niente, premetto che non sono mai d'accordo con quello che dire, ma mi diverto troppo, per cui, come dire, viva la Santanchè, viva Giovanardi. Ed è proprio su un passaggio di Giovanardi che volevo intervenire. In particolare su questo ipotetico francobollo che un domani potrebbe essere dedicato alla memoria del cavaliere. E secondo me bisognerà risolvere un problema tecnico non banale, perché potrebbe non funzionare tecnicamente come francobollo. In che senso, scusi? E che gli italiani, anziché leccare il dietro, sputeranno sul davanti e quindi non funziona. Lei dice non funzionerà come francobollo. Non male questa qua, Vincenzo, grazie. Buonasera. Alessio da Torino, buonasera. Facciamo sto numero dopo del nostro amico. Alessio, dica. Intervenire dopo Amici Miei lo reputo un po' un onore. Allora? Comunque io... Beh, diciamo che è molto realistica quella situazione di Amici Miei. C'è una scena di quel film... Io in prima persona non lo posso confermare. Comunque, vabbè. Dicevo, volevo manifestare la mia solidarietà al povero Emilio Fede. Ma che... io l'amo, ma io l'amo. Ha sentito quando dice, ma io l'amo. Chi è, chi è quello là, Parenzo, scusa, quell'attore? L'attore è Gastone Moschin, che nel il protagonista, film, cioè il nome del protagonista? No, non è il protagonista. Che vabbè, il nome del... Come non è il protagonista? Sono quattro protagonisti, tutti No, no, ho capito, il nome di quel personaggio, chi era? L'architetto Melandri. L'architetto Melandri innamorato, no! Cioè. Poi c'è il Sassaroli, che è il professore, cinico, sì, eccetera. Il conte Mascetti, che è lo spiantato, Ugo Tognazzi, sì, quello della supercazzola. E poi c'è il Sor Perozzi, che sì, invece è il grande, il giornalista. Ho capito, e poi benissimo. C'è il Necchi, quello del Bar da Necchi. Certo, non c'è dubbio. Alessio, che voleva dire? Dopo questa grande intervento del solito Parenzo, volevo dire appunto che non mi dispiace per Emilio Fede, che purtroppo è caduto nella vostra trappola, che essendo una persona troppo buona risposto a tutte le vostre domande, purtroppo che l'avete convinto come al solito, come fate con tanti personaggi che intervengono alla vostra trasmissione, l'avete convinto a dire quello che volevate sapere voi, anche se non era opportuno che lo dicesse, l'avete esposto a queste critiche. Vabbè, allora? Purtroppo state rifacendo lo stesso errore, spero che facciate vostra colpa, ammettendo appunto che state esagerando con Emilio Fede, che è una persona troppo disponibile. Ma io non ho esagerato nulla, non ho chiesto scusa di nulla e non devo chiedere scusa di niente su questa cosa qui, ma nella maniera più assoluta, nella maniera assoluta. Va bene, arrivederci, buona serata. Arrivederci. E che vuole questo qua? Perché ha chiamato la signora Alessia? La regia dovrebbe avere pronta quella bellissima canzone che abbiamo mandato all'inizio. Sì. Che descrive il carattere del signor Cruciani, cantata dal grande Gaetano. Grande figlio di puttana. Ma che amico per me. Andiamo su con quel telefono, su col vero figlio di puttana. Se la deve dare a te. Cantate in coro con noi, ascoltatori della Zanzara, Cruciani, grande figlio di puttana. Non ti fa capire mai. Un attimo, eccolo. Vittorio? Ma che fai, Vittorio? Poi là, sto andando a Udine. Attento! Come cazzo? Attento chi? Oh, ma chi è che guida? Ma niente, lo sapevo. Eh? E quindi dicevi? No, ma che stai facendo? Cosa stai combinando? Ben ritrovato innanzitutto. Avete ripreso le vostre abbiamo ripreso fatiche? E beh, inutili, insomma, adesso ci pagano per quello. Ci pagano per quello. Incredibile, sembra incredibile. Ma abbiamo letto questa roba che adesso ti sei messo a difendere l'avvocato Marra, ma non è proprio un cazzo da fare. Ma veramente una cosa pazzesca, dai, su, avvocato Marra, ma di che parliamo? Dai, su, hai fatto una perorazione sull'avvocato Marra. Chi non legge i libri di Marra è ignorante. Vittorio, dai, su. Un'ottima idea. Ma come un'ottima idea? Perché ti sei no, noi non l'abbiamo letto e non abbiamo nessuna intenzione di leggere. Scusa l'ignoranza, scusa l'ignoranza. Abbi pazienza. Vabbè, perché non avete letto neanche Tucidide, quindi... No, noi no, noi, non siamo, noi siamo ignoranti per definizione. Ignoranti va bene, per va bene. Questo... Ma come procedono le cose col Partito della Rivoluzione? Beh, adesso no. Sarà il momento decisivo, perché... quello ride. E ride perché è un cretino. Non sa che ci sono le elezioni in Sicilia, quindi in Sicilia... È un momento decisivo, è bellissimo. Certo. Ma scusa, in Sicilia... No, ma sai perché è meraviglioso? Perché sono arrivato oggi a Roma e non ho fatto in tempo a scendere dal treno alla stazione Termini. Sì. Che tu mi detto, oh Parenzo, ma come va il partito della rivoluzione? Io ho detto, è un momento decisivo questo. Ho detto a tutti, un momento decisivo. Vabbè, perché adesso stai denigrando in questo modo il partito della rivoluzione? Una volta ti volevi pure scrivere al partito della rivoluzione. È un povero cretino. Ma scusa un attimo, Vittorio, in Sicilia con chi si allea il partito della rivoluzione? Forse non si allea con nessuno, ecco. Va da solo in Sicilia? Va da solo. E siccome in Sicilia si stabiliscono alcune cose che saranno importanti anche per dopo, è un momento decisivo, ma se lui deve ridere si tenga Grillo e Renzi, che lui sa perfettamente che sono due cretini, però ci piacciono tanto. Ma pure Renzi è cretino adesso, pure Renzi è cretino. Ma perché adesso è intelligente. Beh, ho capito, ma insomma è uno che vuole rottamare tutti, che vuole cambiare le cose nel Partito Democratico. Che cos'ha di cretino Renzi? Spiegamelo adesso, Vittorio, perché? No, ma non è che sia un cretino complesso, un cretino semplice come voi, cioè il vostro livello. Quindi va benissimo per voi, quel livello lì di gente che perde tempo a parlare di cose inutili. Parla di cose inutili, quello falsi. Cioè, ho capito, però uno può dire quello è un cretino, quello è un deficiente, però l'hai mai preso un voto in vita tua? Scusa, Vittorio. Ma che tanti? Dove l'hai presi sti voti? Vabbè. Io ho preso 6.000 voti all'europeo, non so poi non l'avete mai visto. Ma sì, 20 anni fa, quanto è stato? 10 anni fa, 12 anni fa, ma ormai è finito quel periodo, Vittò. Non è che... Scusa una cosa, io voglio dirti una cosa, ma adesso, a parte questa alleanza con Marra... Non capisco perché continua a perdere tempo fondando partiti, a me è anche simpaticissimo, Vittorio, però... Comunque, Berlusca alla fine si è deciso che vuole fare o no, pure ancora una gran confusione, tu che sai tutto. E avrete delle sorprese, ragazzi. In che senso? Ma ti sentiamo con la voce un po'... Perché non è che posso parlare veramente con due dei pensanti come voi, insomma, non mi incazzo neanche più, siete due poveretti. Ma come? Ma no. Che vuol dire? Ma non so, due minus a mente, poveretti, così, van bene per questi tempi, non si vede per Renzi, per Di Pietro, per Grillo. No, Di Pietro veramente io non è che abbia grandi simpatie, per carità. No, ma a noi ci stupisce... a noi stupisce il fatto che tu, sì, avendo un'intelligenza brillante, sì, la metta al servizio di cose totalmente fallimentari. Questo è quello che ci stupisce. Quale sarebbe il partito totalmente fallimentare? Ma no, anche questi partiti straordinari che, cioè, l'alleanza col signor Marra. Ma appunto. Ma dai, su. Ma non conosce i libri di Marra, La nuova ignoranza, hai detto, pure con una musica di sottofondo, una sorta di declamazione hai fatto. Su, Vittorio. Ma bello cosa? Un'ottima idea. Ah, un'ottima idea. Ma dove stai andando, scusa? Sto andando a Udine. Cioè, se qui Marra è passato praticamente da... Un libro. Marra è passato, Marra è passato dalla Tommasi a Sgarbi, questa è la sostanza. La Tommasi è passata da Sgarbi a Marra. La Tommasi è passata, perché tu hai avuto a che fare pure con la Tommasi? Per questo lo sanno anche le pietre. Cioè, anche tu sei nella lista della Tommasi, eccetera, eccetera. No, io sono all'inizio di ogni lista. All'inizio. Tu hai fatto, sei stato quello che all'inizio ha... Che hai fatto con la Tommasi? Ma che dovevo fare? Niente, l'ho incontrata prima degli altri. E l'ha incontrata in che senso? Incontro tante persone. No, ma in che senso? Cioè, sei stato insieme a lei, hai avuto una storia sessuale? Devo raccontarlo a te. Non so, sentimentale, che ne so. Quale sarebbe la... Ma non lo so, è una curiosità, qui è una grande casa trasparente la Zanzara, non è una... Cioè, non... Sa, trasparente per voi. Vabbè, ma che stasera sei malmostoso, è malmostoso stasera. Vabbè, sei malmostoso. Sto andando in viaggio sereno con una... Vabbè, sei malmostoso. Una ragazza, sto a perdere tempo con due... E poi tra l'altro eravamo pure in onda, siamo in onda, no? Beh, certo che siamo in onda, siamo sempre in onda noi. Sì. Anche quando... Cioè, anche quando non sembra... Allora, no? Anche quando non sembra siamo in onda. Sì, sì. Anche quando non sei... Ma che c'è? Sei malmostoso? Che c'è? Hai dormito no. Male? No, ho fatto un bellissimo viaggio, ho visto cose bellissime. Non pensavo di essere disturbato nella mia serenità da due poveri stronzi come voi, due mentecatti. Ma che c'è? Perché adesso ci tratti così, due mentecatti? Dai, adesso, ma avete solo delle cretinate. Se uno sorride, l'altro dice delle idiozie. Ma hai sentito? Ma scusa, ma hai sentito? Ma l'hai fatto tu la cosa con Marra? Scusa, mica l'ho fatta io. Mi sembra che l'ho fatto di quello che appena di parlare. Allora parliamo di una sola cosa e poi ti lasciamo. Grillo che dice di che poveretto anche lui, come voi. In che senso come noi? Ma poi è minacciato, come Saviano, sono più di tre persone che sono in pericolo. Mi dispiace. Non è vero, insomma, tutta no, non parlare con Saviano, sì. A Grillo. Vabbè, sono... Vabbè. Disperati. Vittorio, ti saluto. Auguri. A presto. Ciao. Bah. Enzo, provincia di Venezia. Sì, buonasera. Dica. Soltanto una piccola conferma che Carlo Giovanardi è veramente un grande collezionista. Siamo casualmente anche soci nello stesso club filatelico. Pure. Sì. E come vabbè, curiosità... Ognuno lo sa. Sì, non c'è limite alla depravazione. No. Non c'è limite? Alla depravazione, dice. Ma perché? Ah no, ma infatti ognuno può avere, sì, le passioni... Passione certo. Che vuole. Una piccola curiosità, molto di recente le Poste Italiane hanno dedicato un francobollo a Mino Reitano. E allora? No, così, perciò c'è spazio anche per il Silvio nel futuro tranquillamente. Vabbè, adesso il francobollo con Berlusconi mi sembra veramente una trovata di Giovanardi, eh? No, perché dai. Una trovata giovanardiana, diciamo, una trovata giovanardiana. Va bene, grazie. C'è spazio anche per Berlusconi e francobolli. Rita da Trento, buonasera. Io ti saluto perché ho appena scolato la pasta, Cruciani. Me ne frego, mancano due minuti, aspetti. Rita da Trento, Cruciani. Dica. Sì, ho appena scolato la pasta. Volevo sapere se realmente sì. Vi siete meravigliati di tutte le ingiurie che sono arrivate a Fede. Fatto. Cioè, ci siete o ci fate? No, io non mi sono meravigliato per niente, guardi. Sì, perché... Vi ha dato addirittura degli stronzi, dei coglioni. Pronto? A quelli che hanno scritto quelle sì, cose. Sì, secondo me chi ha insultato Fede per i 20.000 euro è un coglione. Ma vede, no, l'insulto non è per i 20.000 euro, l'insulto è perché Fede si è lamentato di questo. Ma la lamentato che erano pochi. Ma poi no. Ha tentato di giustificarsi dicendo che ha il mutuo, che ha il leasing, che ha la domestica, che ha l'autista. Lui ha offeso gran parte degli italiani per primo, lo capisce questo? No, non lo capisco. No? Ognuno ha il suo modello di vita, il suo stile di vita. Ma non è quello, bisogna avere un po' di rispetto, un po' di ritegno, un briciolo di sensibilità. O la pasta che scuoce, lo capisci o no? Ma me ne frego, ma lo sai che finiamo alle 21? zitto, ma devo stare a sentire questa signora qui, c'ho la pasta da mangiare, la rompio le balle tutto il giorno. Per i 20.000 euro, lo capisce Crociani? Lo capisco, ci sentiamo domani. Ci sentiamo. Ma non ha detto proprio che sono pochi. Vabbè, comunque sì, se vuole si incazzi, io non mi incazzo. Cosa vuole da me? Se vuole si incazzi, io invece non mi incazzo per Fede che dice che 20.000 euro sono pochi. Non mi incazzo. Ma certo, perché lei è un cinico come Fede. A domani 18.30. Diagnosi. La donna così tu non la reggi. No. Ma io l'amo! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.